Benvenuti allo scontro. Ah no, benvenuti al... C'è la sigla? Solo, sparo un attimo che faccio parte. Dov'è la sigla? Registrazione. Su YouTube. Via registrazione. Perché non sento la sigla? Cos'è sta roba? No! Sì. Ok, perfetto. Allora, benvenuti al 14esimo episodio di Coloni. Oggi, live, insieme al Super Bowl, noi... di Tycoons and Dragons, che ci potete dire al Super Bowl in anticipo di 4 ore. Stai zitto! Ti ho detto che devi stare zitto oggi. Dov'è la Anzi, musica? Di solito stai zitto, perché oggi non stai zitto! Dov'è la musica? La musica la mettiamo, ma prima vi ricordiamo che ci potete seguire sulla pagina Facebook di Tycoons and Dragons, sul blog di rigdr.wordpress.com. Ma funziona sta cosa di ricordarlo? Perché? Beh, non lo ricordiamo, poi... Ognuno fa come vuole. E la cosa però importante è la sigla. È che presenterò i miei ospiti, ricordandovi che oggi giochiamo a Coloni, che è, come sapete, la nostra campagna di Dungeons and Dragons versione 5.0. Con me da Bologna della Giacomo Vecchi abbiamo Edoardo Saladì. No, scherzo, dai. Stefano Gamberone, no, scherzone! Enrico Catabriga, Giulio Bosi, Luca Lazzarini e da Marsiglia, ovviamente, Edoardo Saladini. Come notate... No, da Atlanti d'Edoardo. Non c'è Stefano Gamberoni, ma questo ci sorprende? Tu non sei sorpreso? No. Non sei sorpreso? Com'è che non sei sorpreso? No, sono sorpreso quando c'è, in realtà. Ah, anche io un po'. Va bene, allora, sai che c'è? Mandiamo la sigla. Non si sente. Questa la sigla. Mamma mia. Va bene, allora, dove ci eravamo lasciati? Catta, dicelo tu. Beh, io mi ho lasciati dalla festa sulla nave. Qualcuno, non mi ricordo bene chi, è venuto a chiedermi... Se non se la ricorda, se la teniamo noi. Probabilmente perché. Va bene, allora facciamo così: ognuno di voi mi racconta la sua versione dell'ultima puntata. Allora, sta a te. La mia versione era: siamo stati invitati alla festa sulla nave dal capitano, era pieno di alcol, pieno di donne, e ci si divertiva un sacco. Perché siete stati invitati alla festa? Perché voleva sdebitarsi con noi per il fatto che gli avevamo recuperato 50 monete d'oro su per giù dallo gnomo a cui che gli doveva dei soldi. Quindi ospiti d'onore, saltiamo pure la fila per entrare come VIPs in questo posto. Mm-hmm. Almeno io comincio a bere, non so gli altri, e a festeggiare con gli avventori della nave. quando incrocio noto la presenza di un vecchio lupo di mare di cui avevo sentito parlare anni fa, e a quanto pare scopro che lui era il precedente pirata controllore della zona, quello che aveva sotto il controllo queste acque. E l'arrivo di Krakenberg non so quanto tempo fa. Ti ricordi come si chiamava questo? No, questo non va bene. Garroken. Bravo. Lo squalo nero. Squalo nero è la sua nave pirata. Però ci sta che sia lo squalo nero anche lui. A quanto pare. È un vecchio, c'è un pezzo di asta. Affa la vista. Però almeno così dovreste essere tutti dentro. Sì, sì, io non esco. È freddo fuori. Bravo. Continua a cattare. Ah, penso che venisse a picchiarmi. Bevendo con lui scopro che giustamente tiene giustamente rancore, cova rancore nei confronti di Krakenberg, sì, perché gli ha soffiato il suo mare. E quindi, gozzovigliando insieme, mi promette che quando avrò bisogno, lui e la sua squalo nero accorrerà in mio soccorso. E poi a quanto pare mi perdo tra le cosce di una qualche pachiderma. Esatto. Va bene. Presenta quella festa. Eric, la tua versione. È stata una puntata molto molto brutta. Mi hanno molestato. Ti hanno molestato al tavolo. Io non sono arrivato alla festa in pratica, perché mi sono perso in città cercando di raggiungere un punto che poi è andato a fuoco, si è scoperto. Che cos'era quel punto? Era il punto dove mi ero incontrato la sera prima con i famosi collezionisti. Ok, dai. Tipo tre cose da ricordare. Esatto. Il tuo storyline. I famosi. Le guerre cittadine si sono dimostrate più che impeccabili nell'investigare. Hanno messo i bastoni tra le ruote tutto il tempo. Non se ne facevano passare. Esatto. D'accordo. Poi cosa è successo? Poi niente, è successo che sono stato avvicinato dall'amico di Katta, Piti, per un contratto alternativo a quello che aveva fatto con loro. Sì. Che si è concluso nel migliore dei modi per noi, in quanto tutti siamo stati accontentati, essendo lui morto e avendo fatto il raffio del suo bottino. D'accordo. Giulio, la tua versione. Mi sono perso in preghiera per parecchio tempo. Sì, è vero. Poi a un certo punto mi sono ricordato che effettivamente anch'io ero stato invitato dal capitano e sono andato alla nave. Cosa hai trovato lì? Lì ho fumato dell'oppio con uno strano vecchio. È vero. Poi sono tornato su a mangiare. Nel frattempo è arrivato Eric, che ci ha detto della cosa. Quindi sono andato da Quake per chiedergli in prestito la pietra. E l'ho convinto, visto che tanto lui era ormai più di là che di qua. E inoltre era affaccendato con una sorta di balenottera spiaggiato. Che ci ha provato anche con me, ma essendo io vecchio e con l'artrite non potevo, mi spiace. Sollevarla. Esatto. Quindi mi sono fatto dare la pietra, siamo andati. Poi vabbè, con anche figli. E abbiamo seguito Eric, poi un po' non l'abbiamo perso. Poi abbiamo capito dove era finito. Ho cercato di sfondare la porta e mi sono trovato una secchiata di merda addosso. Sì. E poi ti è piaciuto? Non tanto. Ok. Sei rimasto di merda? Sono rimasto un po' di ci merda. Ci sta. Salla, la versione di Philip. E poi... Ma scusa, hai finito? Poi c'era... Mentre aspettavo lì c'era gente che passava dicendo che c'era un incendio a qualche parte. Ok. Salla, la versione di Philip. Non ti sentiamo, no? Stai vomitando? Secondo me sta facendo... Ma dai, una scenetta. E te non posso parlare, non parlavo. Ah, che lamento. No, ora puoi parlare. Io non so perché, cioè, o meglio, mi hanno invitato a una festa a cui non volevo andare, sono dovuto andare. Ti sei obbligato. Sono stato lì e finché più o meno mi hanno costretto a seguirli durante un'avventura per recuperare, per far finta di dare una pietra, recuperare una pietra, recuperare tesori. Ma se hai detto qualunque cosa pur di uscire dalla festa? Pur di uscire da quel posto orrendo. Io ho accettato e quindi ho seguito Eric pedinandolo mentre parlava con un tizio. L'abbiamo perso, l'abbiamo ritrovato e basta. Ho guadagnato delle frecce d'argento, quindi è andato bene tutto sommato. Non ho neanche dovuto combattere. Ok, una domanda. Volevo sapere una cosa. No, aspetta, manca il punto di vista di Shiro. Già. Continuerà a mancare. volevo chiederti una cosa, Salla, sul tuo personaggio. Il segreto tu l'avevi detto con noi o solo a me? Non mi ricordo. Io no, io l'ho detto a te, ma non è un gran segreto. Però sì, l'ho detto a te. Vabbè, posso, allora me lo vado a riguardare dopo perché non mi ricordo bene. Cioè, penso di ricordarmi, però non sono sicuro. Va bene, la tua motivazione fondamentalmente è che volevi andare via dalla Saradovia. No, non volevo, dovevo andare, devo andare via. Va bene, posto. Ok, possiamo partire. Allora, eravamo rimasti che Philip, Arian e si sono ricongiunti con Eric in quel vicolo. Dove sta però passando un po' di gente molto allarmata per l'incendio che sembra essere divampato in città. E che cosa fate voi tre? Allora, io ero di sotto con lui, se non mi ricordo male, avevamo chiuso la scorsa che stavamo aprendo le porte degli altri due comunque sotto. Non eravate tornati su? No, eravate giù. Mi sembrava che avessimo aperto entrambe le porte e avevi chiuso, okay, dicendo che giravano. Ah, ok, sì, cunicoli sì. Va bene, allora c'è Arian su, da solo, con una porticina aperta sul muro e un po' di merda in testa. Non perché delle brutte idee, non è in senso figurato. Lo so. Ah no, ma io l'ho visto mentre lo smerdavano. Ok, voglio sapere cosa fanno Philip e Eric intanto. Io vorrei andare a vedere dove portano i cunicoli. Però prima di fare qualunque cosa metto il corpo del tipo nell'armadio e lo chiudo. D'accordo. Philip? Vabbè, ti posso Cazzo, se vuoi seguire. Se un'altra birra... Cioè, se me lo dici ti seguo. Sì, sì. Vuoi andare in quello che era chiuso, che ho aperto con la chiave, o quello che era aperto? È uguale, mi affido a te se vuoi spesso d'acqua cosa. Boh, facciamo un 2 più 2 senza pensarci troppo, andiamo in quello chiuso, visto che era chiuso, ci sarà un motivo. Proprio un 2 più 2 classico. Vai. Andiamo. Provate quindi cercate intanto di aprire quella. No, l'avevo aperta. No, è già entrambe, entrambe girano. Ok. Detto, non vedevo. Cunicolo prosegue per un po'. E va bene. Intanto, Arian, tu cosa vuoi fare? Vedi che praticamente non riemergono i due da sotto. Quindi non sai bene cosa stia succedendo. Perché nessuno ti ha detto niente. Ti ho detto che non ci passo tanto bene. No, però ci passi, da carponi ci passi anche tu. C'è gente in giro? Sì, nessuno ti presta particolare attenzione, però un po' di gente che passa ogni tanto c'è, vedi gente che porta secchi, c'è gente che ti ha detto tipo ah c'è un incendio, vieni a dare una mano anche tu, e però non è che sta lì a parlarti più di tanto. Per questa strada però sì, un po' di gente passa di animazione, però non è che... Ok, fermo uno. Ovviamente non 50 persone. Io rubo il secchio e mi lavo. Va bene. No. Ci sta, questo da loro. Gli chiedo dov'è l'incendio. Cioè, se a meno che io non lo veda e sia lampante la cosa. E... allora, sì, vedi, cioè, capisci la direzione dove sì. Perché comunque vedi, si vede del fumo, la gente che accorre. Praticamente note, però si vede del fumo, dai. C'è la luna. E allora chiedo cosa sta andando a fuoco e quanto è lontano. È una casa, poco lontano da qua. Ah, ok. Vieni a darci una mano anche tu. Sì, mi puoi dare un attimo il secchio, per favore. Ma serve per cosa? Valla a prendere una al pozzo, scusa. Facciamo prima se me lo dai, per favore. Vuoi fare una? Faccio una prova di charm. Sì. Persuasion. Sì. Come lo dimmi cosa gli dici, quindi. Fai prima. Dimmi cosa gli dici e poi... Per favore, mi serve per evocare il dio della tempesta e spegnere l'incendio. Com'è incredibile? 9, 12. No, sì, 12. 12 fa, ma cosa? E ci riprovo con un altro. Niente, vai. Scusa tu. Ok. Sempre con questo modo qua. Esatto. Ok. Ok. Ma che cazzo dici? Vai a prendere un segno come tutti i cristiani. E usa i cristiani per farlo. Tutto dato in me. Vabbè, allora vado a prendere. Quanto è lontano il pozzo? Ah, guarda, se vai avanti per questa strada, proprio arrivi in fondo, giri a destra, poi dopo un po' lo vedi. Comunque c'è gente che sta prendendo lì. Ok, dai. Lascio un messaggio. Lascio un messaggio perché tanto io ho tipo il kit con le pergamene e cose. Quindi dentro la porta lascio un messaggio. Se quando tornate non sono qui, non vi preoccupate, poi vi raggiungo, che ho un conto in sospeso. Ok. Va bene. E poi corro al pozzo. Sì. Prendo un secchio e me lo do in testa. Il secchio? L'acqua. L'hai creare l'acqua? No. Cioè, come incantesimo sì, ma non l'ho preso. Ah, ok. Ci sta. Va bene. Io gli avrei detto, ti fai male un punto ferita. E... sta a voi, quindi. Proseguite su questo. Sì, dai. Di... D'accordo. E... poi dopo andrò all'incendio. Sì, certo. E... allora... praticamente questo cunicolo prosegue e fa alcune svolte, siete proprio sotto. A un certo punto vedete che termina. Apro. Come? Termina con un muro. Sopra di voi c'è una botola. C'è anche la scaletta per arrivare alla botola? C'è anche la scaletta per arrivare alla botola. Sono cunicoli dove tu passi tranquillamente, mentre... Provo a salire, Philip fa un po' più fatica, deve camminare molto curva, ogni tanto anche andare a carponi. Il tizio lì era un gnomo, quindi in realtà era bassino, giusto? Sì. Provo a salire a vedersi aperta. Allora, vedi che effettivamente si apre. Da rischio? Senza far... vabbè, apro e do un'occhiata dove sbuco. Allora, vedi una stanza... non si apre. A tu gli occhiali della cosa. Sì. E... oddio ragazzi, ciao. Sì, sì. Aiuto, che tensione. Molto bene. Sparami un pochino d'acqua che mi pulisco questo. E poi dopo... Top. Allora, sì, è una stanza molto polverosa, buia. Piccola, grande. Da quello che riesci a vedere non sembra tanto grande. E non c'è niente dentro? Vedi qualche cassa, qualche armadio polveroso. Sì, scusa. Vabbè, se non c'è nessuno inteso quello. Non sembra che ci sia nessuno. E dico, puoi salire a lui sotto. Sì, non c'è effettivamente nessuno in questa stanza. Però fosse la casa che andava a fuoco. Non sarebbe stato divertente. Se c'è, accendo un lanterno, quello che è, per far vedere anche lui. Se no, se non c'è, inizio a dare un occhio in giro nei bauli, nelle cose. Cioè, io seguo, però non salgo. Appunto, ho detto. Sì, no. Avete una cosa? Cioè, io no. Sì, lui invece sì. Philip Fly? Cosa? La torcia. Ma la torcia sì, però non sto a accenderla perché cioè, ci conviene che tu salga. Penso che la torcia voi l'avesse già fondamentalmente accesa. Io no. Cioè, perché, nel senso, andavo più o meno per scontato. Non so se riuscivo a seguirlo. E... cioè, a me non serve, quindi... No, cioè, a te non serve, a te non serve, ma Philip non riusciva a seguirti. Quindi io do per scontato che tu avessi tipo gli occhiali tirati sì. su, sì, la, sì, però sì. la torcia... per farti seguire e poi dopo sei andato su con gli occhiali. Vabbè, non so, vado un po' per scontato. Senti, no? Senti lui. Se non riesco a seguirlo mano nella mano, allora sì. Ma cioè, nel senso, ci mettete. Ah, se volete fare così, ci mettete molto molto di più, sicuramente. Nel cunicolo io andavo per scontato che la torcia che tu avevi già, fondamentalmente ce l'aveste. Poi potete, se volete spegnerla, non è un problema, giù. No, no, va bene. Però devo, tra virgolette, per scontato. Vabbè, io intanto salgo e do un occhio allora. Ok. E intanto torniamo a Giulio. Ok, dopo che mi sono lanciato l'acqua di due o tre secchi addosso. Saluto. Sì. Cioè la lanci addosso a te e non sull'incendio, bravo. Esatto, mi incammino verso l'incendio. Senza secchio. Senza secchio. D'accordo, ma bagnato. Ma bagnato. Ok. Mi voglio immolare! E... d'accordo. E... allora... vabbè, capito dopo. Mm-hmm. E... allora... Harry. I peonios che prendono l'acqua e mi dicono qualcosa. Di roba varia, sì, detto. Allora è una specie di cantinetta fondamentalmente. Mm-hmm. Vedi che c'è praticamente un... essendo saliti però cantinetta a piano terra, intendi? Non sotterraneo, roba varia, no? Non vedi finestre qua, effettivamente. Okay. Vedi una scalettina di pietra che arriva a una porticina. Ci sono, che è sopra. Ok. Mm-hmm. Ok, c'è cioè sopra la scaletta di pietra, okay. C'è questa sì. porticina. E praticamente da quello che vedi... qui ci sono appunto questi bauli e questi armadi. Negli armadi, provi a aprirli? Sì, sì, da un occhio. Negli armadi ci sono dei vestiti di varie misure, di vario tipo. Anche alcuni vestiti un po' stravaganti, poi tuniche, qualche... dimensioni? Di varia. Gnomo? O... no, quasi tutte medie, però fondamentalmente di varie taglie a livello okay. umani, però tutte più o meno medie, qualche vestito un po' più piccolo anche, sì, qualche, okay. qualche piccolo. E un... c'è anche un paio di armature di cuoio. Ok. E nei bauli trovi un po' di... trovi dei formaggi. Ci sono anche dei salami appesi in questo quindi è proprio cantina, in questa cantina. Cioè, tipo la cantina. Ci sono, tutti sono degli scaffali con dei salami e dei formaggi appesi. Cioè, scusa, il contrario. Okay. Però beh, hai capito? Nei bauli trovi altri vestiti. E ci sono. Ci trovi anche un. Un 4 o 5 pugnali però normalissimi. Ok. E poi ci trovi qualche altro, poi ci trovi una cassetta di arnesi fondamentalmente di vario tipo, mm-hmm. dei picconi, dei okay. robe varie. La porticina più in alto è e poi c'è un... dimensione e poi normale, ci sono, e poi c'è anche lui. Tipo una, un punto dove c'è anche un bel po' di bottiglie di vino. Ok. Quello che sembra quello di vino e un po' di casse di barilotti di birra, sembrerebbe. Vario cibo. L'altezza del soffitto e la porta adesso sono dimensioni normali, no? Qua? Allora. Sì. Cioè non okay. è. Sì, sono dimensioni sì, sì, normali, sì. assolutamente. Non è però particolarmente alto. No, no, era per capire, probabilmente sarà. Ok, ho capito. No, in realtà vabbè, non è abbastanza, cioè non è sì, bassa sì, sì, come sì. cosa per essere con questa scala. Boh, dico lui, se, secondo me di là porta in una cosa simile l'altro percorso, possiamo provare a uscire da qua e probabilmente arriveremo all'osteria, c'è una porta, c'è comunque la porta su. Sì, sì, esatto. Probabilmente arriveremo all'osteria. Ma tu sei venuto qua perché pensavi di trovare qualcosa di valore? Sì. Va bene, dai. Vabbè, vado avanti io. La porta vedo. Ma quindi tu sei ancora giù, Filippo? Se ho capito bene. No, io lo seguo, però sto un po' più indietro. Ah, sei salito anche su sopra la botola. Sì, sì, ho paura. L'unica paura che ho è che magari se becca una trappola, se la becca lui. E do un occhio sulla porta, è aperta. Quella sopra la scalinata. No, è chiusa. Allora, provo ad aprirla con gli arnesi. Con gli arnesi? Sì. Ok. Vado. Cos'è il suo vantaggio? O c'è anche l'abilità da guardare? Allora, gli arnesi, giusto? Che ti danno vantaggio. Sì. È un tiro, se non sbaglio, di Slate of Hand. Non lo so. Sì, rientra lì. No, è sulla destrezza con la proficiency perché ha gli arnesi. È vero, c'è la proficiency, non il vantaggio. Togli il coso. Ok. Con la destrezza anche. Sicuro che non sia Slade of Hand? Vabbè, è uguale perché più 4 più 3 sono metto proficiency e di là è o più 7. Quindi quando alla fine è uguale. O comunque il più 7. Possiamo andare avanti così. Il tipo di prova dipende dal modo in cui lui decide di disattivare la trappola. No, è aprire una porta. Sparami il giocatore un secondo. Per curiosità. E serratura, trappola, quello che è. Ah beh, rientro uguale. E a seconda di come descrivi il modo con cui utilizzi gli strumenti per scassinare, fai una prova diversa. L'andrei a fare su destrezza. Sì, ma cambia la caratteristica, non la vita. No, però aspetta un secondo. Anche l'abilità. Può cambiare. No, perché è la stessa, cioè mia comunque la proficiency. Il modificatore. Poi se dice ho imparato a usare l'intelligenza perché ho studiato come usare gli arnesi, allora fa intelligenza più proficiency, ma è comunque proficiency. Sì, cioè è comunque senza abilità, è caratteristica. Può anche essere abilità, se tu lui per qualche motivo utilizza delle corde. Se però utilizza l'arnesi a scasso, è arnesi a scasso. Sì. Ah, ok. Mesi da scarso dicono ti aggiungi la proficiency a tutte le prove che fai per esatto, quello che la fai. La prova è una prova di caratteristica. No, può anche essere di abilità. Dipende tutto da come la fa. Non... Beh, uguale, quello che intendevo dire è che ho il più 7 in entrambi, quindi tanto vale andare avanti. Sì, puoi farlo. No, ci sta, sì, destrezza. Aspetta. Sì. Cioè, vai, vado. Destrezza e proficio, sì. 17. 17. E 17, sì, riesci a aprirla. Ok, e dopo averla aperta la apro piano piano cercando di guardare, cioè non la apro tutta, apro piano cercando di guardare cosa c'è nell'altra stanza o dove d'accordo mi trovo. Sembra vuoi che faccio stealth per fare silenziosamente? Dimmi tu. Sì. 13. Ok. Ti sembra che dia su un corridoio vuoto. Tirali un illuminato, no? No, buio. Ok. Ci sono varie porte su questo corridoio, di cui una alla fine del corridoio. 17. 23. 22. Scusa. Ti sembra di sentire provenienti quasi come, cioè, diciamo fuori da questo luogo. Delle voci, varie voci. Da sopra? No, l'altezza è la stessa, però diciamo in direzione verso la porta che vedi in fondo al corridoio, che però è abbastanza vicina dove sei tu. Ok. Lì vedi anche una finestra, sembra esserci una finestrella, c'è una porta vicino, c'è una finestrella e dalla finestrella ogni tanto vedi come dei bagliori apparire. Posso provare ad affacciarmi? È alla mia altezza, se arrivo. È un pochino più in alto di te, però poi sì. Provo. Dare un'occhiata. Vado perception sempre. Stealth, lo vuoi fare? Avvicinati di stealth? Sì, beh, certo. Tira questo. 16. Ok. Quando sei lì, fondamentalmente ti rendi conto che questa finestrella e questa porta danno verso l'esterno e fuori c'è un po' di trambusto di persone. Ah, ok, quindi sarà il movimento della gente che sta andando a spegnere il fuoco, immagino. Mi giro verso lui e gli dico, secondo me possiamo uscire da qua tranquillamente, da sull'esterno la porta. Va bene, vai. Andiamo, è aperta? Ho chiuso. Ma aspetta, una cosa, io ho visto l'incendio prima mentre arrivavo. Voi in quel momento non me lo ricordo, però eravate molto concentrati sul seguire l'AS, se non sbaglio. Quindi ok, no, era per sapere se avevo un'idea di quel casino che c'era fuori, che cosa fosse. E allora, vediamo, fammi pensare. In realtà non avevate avuto particolari segnali, in effetti. Però sì, direi che è così. Ok, se allora aspetta, sì. Aspetto. Cioè, effettivamente avreste potuto vedere forse che c'era. Cioè, però effettivamente essendo buio. Magari no, non lo so. Qualcosa volendo avreste potuto vederlo, però effettivamente eravate più concentrati sul. Vabbè, non l'ho cagato perché seguivo loro nei vicoli, quindi. Se è aperta, aspetto un momento in cui vedo dalla finestrella che c'è meno. No, però aspetta, scusami, sì, se ti interrompo. Tu però lo sai in realtà, perché prima che tu entrassi, e comunque c'era già gente che, se non sbaglio, passava da quella strada. Ok. Cioè, quando Giulio gli è caduta la merda in testa, poi dopo poco è passato un po' di gente. E quindi in realtà la sai anche tu. Cioè, ti parlavano di un incendio, sai che si parlava di un incendio, sì. Per cui lo so. Ok, allora senti, prima di uscire guardiamo magari se non siamo sull'edificio in fiamme che... Beh, noi sicuramente non siamo dentro l'edificio, no, in fiamme. No, nel senso apri la porta e sei fianco al fuoco. Beh, c'è gente che passa qui davanti, quindi penso che sia abbastanza sicuro, anche se è davanti okay. A noi. Non va penso bene, no. Vai. Comunque aspetto, visto che è aperta, aspetto, per spalancarla aspetto che ci sia meno trambusto davanti, okay. Di gente che passa, poi esco. Giulio. Ok, io sono arrivato dove c'è l'incendio. Sì, sei arrivato dove c'è l'incendio. Uh-huh. E si apre una porta davanti. Cosa sta bruciando? Una casa. Sì, sta bruciando una casa, l'incendio evidentemente sta molto riducendosi grazie all'intervento di molta gente che sta cercando di... Però ancora è sotto controllo? Però insomma no, in realtà ancora no, però capisci che era probabilmente più grosso. Chiedo se c'è qualcuno in casa. È praticamente tutta una casa che è andata a fuoco e sta forse prendendo fuoco, cioè il rischio è che prendano fuoco anche quelle vicine, quindi la gente... Chiedo se c'è qualcuno in casa, è rimasto. Ah, la gente che c'è lì? Qualcuno. E abbiamo andato via tutti, però è una bella fiamma, facciamo fatica a portarla giù. Tu dacci una mano anche tu, riesci a prendere dei secchi? Sì, tranquillo, ma c'è qualcuno in casa? Sì, no? E nella casa della casa dentro? Ah, sì, non sappiamo. Il vecchio Giulio non avrebbe fatto quella domanda. Quella di fianco abbiamo fatto uscire. Abbiamo fatto un fulmine. No, abbiamo fatto avrebbe, tutti, avrebbe vedi, detto rischio lì, per le case gente, di fianco. Vedo, vento! Mi chiedo da quella famiglia un attimo e gli chiedo, scusate, sapete se i vostri vicini qualcuno è rimasto dentro? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. È partito all'improvviso, abbiamo sentito una grande cosa, non lo so. Vabbè, non sarà questo, capito? Non sappiamo se c'è qualcuno dentro. Speriamo di no, speriamo di no. Una fiammata incredibile, cioè non so come sia potuto succedere. Vabbè, anzi no. È meno di 20 piedi in altezza e 40 di raggio, la zona. La zona del fuoco? Sì. Domanda già mi mette un po'. 20 piedi sono... Sai che ci rientreremo sicuramente noi in questo raggio, vero? Come altezza sarà l'edificio dove siamo noi, ci può stare. 40 piedi di raggio, però sono sono tipo 12 metri di raggio, 12 metri di quindi raggio. 24 di diametro. 24 di diametro, Allora, come altezza sicuramente sì, è più basso, come diametro un po' più grande, fai, non lo so. È difficile, fai. Che sarebbe una casa grossa? Non lo so, 24 non sono, cioè, sono tanti? Non lo so, 8 metri? Cos'è? No, 3, 24 no, 24 metri. Tipo, piedi quant'è? 40. Tipo, questo corridoio, ah, quanto sarà lungo, secondo voi? 5 metri, di solito metri. Una camera, cioè, 5 metri è grande. Metri. Non casa mia. Ma metri e piedi quant'è la conversione, so? Tipo 3-1. 3-1. Quindi 24 sono 8. No, 24 sono metri. Già metri. Ah, 24 già. Vabbè, metri. Sì, okay. Dai, fai che è più o meno così. Come Sì, ci sta, dai. Allora niente, mi vado tipo davanti alla porta. Sì, a un po' di distanza e faccio dietro c'è l'asso. E faccio slip storm. Sì. In pratica, in un cilindro di 40 piedi di diametro e 20 piedi di altezza, centrato, diciamo, in un punto che decido io più o meno dove vedo il centro della casa, cioè sopra. Che fai cadere dell'acqua? Non proprio, però. l'aria è pesantemente oscurata. Le fiamme nell'aria sono spente, e il terreno viene ricoperto da ghiaccio scivoloso, rendendolo terreno difficile. Ti spegne la torcia, salda. Quando una creatura entra nell'area dell'incantesimo per la prima volta, nel suo turno, no, all'inizio del suo turno, deve fare un test di salvezza, di destrezza, e se fallisce cade a terra. E vabbè, se qualcuno si sta concentrando dentro l'aria deve fare una prova di costituzione per la concentrazione. Quindi continua dopo che l'hai fatto, fondamentalmente. Per un, fino a un minuto, finché mi concentro. D'accordo. Allora. Finché le fiamme... Va bene, fai questa cosa, che urli parole, cosa fai? Sì, no, faccio sia... con la lancia, sì, puntata, faccio sia dei gesti che... la verbale somatica che urlo parole in gigante. Ok. E niente, allora succede questa cosa qui. Tipo, prima in modo che mi capiscano. Mirate il potere del dio della tempesta! E poi faccio questo, questo da fuoco a tutto. E poi da fuoco a tutto. E niente, allora le fiamme si spengono, molto così, però proprio si vede anche una sorta di patina di ghiaccio quasi che ricopre i resti ormai della casa, che è andata quasi praticamente tutta a fuoco, e la gente attorno a te rimane totalmente basita, c'è chi lascia cadere il secchio per terra, c'è chi si mette tipo in ginocchio dicendo oh mio Dio che cazzo succede, oddio, oddio, e dice, presto, vediamo se ci sono sopravvissuti. Ed entra nell'area. Non tiro salvezza, giusto? Sì. Cosa devi fare? 14. Cosa 15. Succede se non lo fa? Cade. No, scivola da sul ghiaccio, semplicemente. Scivola sul ghiaccio in modo molto pesante e rovina a terra. Dice, che dolore! Vabbè, quando le fiamme sono passate... Un altro arriva per dargli una mano. Fermi, idioti! E rimane però, riesce a rimanere. Arriva subito Giulio. Va Eric e Philip, cosa fate? Cosa vediamo quando usciamo da sta cosa? Uscite quindi? Sì, io sì. Sì. D'accordo. C'è proprio un tizio lì davanti con... No, l'avevo detto che... Sì, sì. Uscite. Aspettavamo un attimo. Uscite, siete in un vicolo. Poco più avanti sulla vostra sinistra vedete chiaramente... Una nube nera. Un incendio in atto. Ah sì, tra l'altro l'aria è pesantemente oscurata. Vedete un incendio in atto, abbastanza grosso. E mentre siete lì c'è tipo gente che vi passa di fianco con tipo torcia e secchio, sì, per andare a spegnerlo. E, se vi avvicinate? Io sì. Se ho una domanda per Lase, tu hai dietro tutti i sacchi con tutta la roba? Non tutto, io ho preso alcune cose. Non c'era altro di interno. Non è che hai tipo 26 cappotti addosso? No, ah, no, non mi hai detto cosa. No, 35. Io ho preso i due kit. Ah no, delle robe qua, ma dell'ultima cosa, quindi non hai preso niente nell'ultima stanza. No, l'ultima stanza. Ok. No, no, no. D'accordo. Avrei voluto rompere tutte le bottiglie di vino, però ho detto dai, vabbè. Allora, okay. Quando girate l'angolo, proprio appena girate l'angolo, praticamente sentite un rumore, diciamo, sordo e tipo... E io dico cosa? Esatto. Un rumore, diciamo, strano. Sordo e E vedete le fiamme che improvvisamente cominciano a calare drasticamente e tutta, diciamo, attorno a voi sembra tipo un mondo più oscuro, tutto comincia la cenere a... Io vedo. Sì, tu vedi un po' di più. Vedi la cenere che comincia proprio a andare in giro. Perché scende pioggia gelata. Esatto, e sentite anche proprio una certa cosa di freddo. Portate i coni! Fate comunque in tempo a notare che praticamente c'è un vecchio, diciamo, con una lancia piantata davanti alla porta della casa che era in fiamme. Quando le fiamme si spengono interrompo l'incantesimo. Ok. Conosciamo il vecchio. Arrivo lì col cornetto. Allora, cioè, alcuni impauriti scappano. E altri ti vengono lì e dicono: ma come è possibile tutto questo? Il potere degli orafi in testa. Gangleri il grande, Gangleri il possente. Si guardano con facce perse nel vuoto. Dai, che prova. Sono prova di persuadere. Per avere una folla durante. Vai. Sperando di non fare uno. No, 12 più 15, 16. E tutti sono molto ovviamente impressionati da questo. Molte delle persone... Poi comunque dico, adesso è importante cercare come vedere se ci sono sopravvissuti. Molte delle persone che erano, diciamo, vicino... Dite questo personaggio, non è stronzo. Nelle case, che vivevano nelle case vicino, vengono lì proprio per ringraziarti. Dice, non sappiamo come tu possa fare questo, ma grazie. Grazie. L'ho appena spiegato. Grazie. Zitto, cazzo. E... Pregate gli dei. Onorate. Certo, onorate. Non potremo fare altro. Noi il pollo ogni giorno. E... Sacrificate. Presto, gli amici. Sugli altari. Cerchiamo, vediamo se c'è qualcuno sotto le macerie. D'accordo. Voi vedete praticamente Giulio. Tu vedi Giulio. Anche, vabbè, anche Salla. Anche se la torcia di Salla si è spenta. Però, vabbè, arrivano altri con le torce. E... No, vabbè, se non è entrato, cioè, se è entrato... Il è stato al sesso numero solo di giorno. Sotto l'olio si spenta, però puoi riaccenderla se vuoi. E, però comunque vedi in generale un po' quello che succede e vedi chiaramente che è Giulio Arian che è attorniato da persone che vanno lì a parlargli, eccetera. Gli portano offerte? E, no, non gli portano offerte. Male, ma io... Allora! E l'incendio è cessato. E l'AS è indubbiamente il luogo dove tu avevi incontrato i collezionisti. Mi avvicino. D'accordo. Quindi cosa fate adesso voi tre? Ditemelo. Lo vedo che si avvicina. Sì, vedi che si avvicina, se non fa per nascondersi, sì. No, mi avvicino. Ah, Henry, come è andata? Bene, non abbiamo trovato nulla, cioè, sembrava un magazzino... Dopo mi servi, perché in quella casa ho un conto in sospeso. Non so se avete visto il messaggio che ho lasciato all'ingresso. No. Ah, siete passati anche usciti dall'altra parte. Però dopo ne parliamo. Ok. Filip cosa fa? Allora, io voglio rimanere in disparte. E uccidere dei topi. No, e osservare la situazione. Okay. Ma faccio un cenno di saluto se mi vede il coso. Arian, sì. Ok. Arian e però non mi avvicino. D'accordo. Arian e Eric invece cosa fate? Io mi avvicino. Ok, nel senso, ho capito che... Cioè, mi avvicino alla casa nel ma punto nel senso, dove vai a indagare lì, vai a cercare con gli altri tra le macerie o stai lì semplicemente? capire cosa fai. Do un occhio dove la sera prima ero entrato in quel punto. Cioè entri dentro, cioè proprio tra le macerie, vai a guardare lì? Non era di fianco al muretto il simbolo, la porta? Mi ricordo anch'io che quella è la casa dove lui è scomparso. Sei abbastanza sicuro di sì. Non sei certo perché alla fine... Però sei abbastanza certo che fosse quello. Cioè potrebbe essere. Non ne sei così sicuro. Però la zona è questa e ci assomiglia. Do un occhio. Mi avevi detto che tipo c'era il simbolo sul muretto e poi c'era una porticina che andava giù. Dove ero entrato? Sì. Dietro un cespuglio, cos'era? Sì. Se avessi saputo prima non avrei spento. Praticamente, diciamo, tutta la parte sopra della, dell'edificio è crollata. Uh-huh. Rimangono solo un po' di mura attorno. E le porte sono totalmente andate, quindi si può entrare tranquillamente tra le macerie. Esatto, sì. E quindi entri. Sì, sì. Quindi i piani superiori sono crollati. Il piano superiore, che sì, evidentemente era comunque il legno, è totalmente crollato e quindi i resti di... Quindi è pieno di roccia. Sì, è pieno di macerie e detriti, pezzi di legno e altre cose. E la gente ora sta cercando... E i muri rimasti su sembrano poter reggere o... O sono particolarmente danneggiati? Allora, diciamo, la parte base della costruzione era appunto in pietre. E, diciamo, per lo più la struttura attorno è rimasta, ovviamente con qualche crollo. E la parte sopra, evidentemente, invece era fatta solo in legno ed è proprio completamente esplosa. E sembra, insomma, fammi un tiro di intelligenza. Architettura. Vai lì in giro a cercare comunque. Puoi fare investigation. No, per ora voglio provare a capire quanto è pericoloso andare a cercare tra le mani. Ok, allora per questo. Vabbè. Allora, sicuramente non è sicurissimo, però diciamo che sicuramente il peggio è passato, nel senso, magari il muro, ok, potrebbe anche effettivamente non essere così stabile. Però non è particolarmente... Già che non mi aspetto che stia è un muro di un piano, fondamentalmente. Okay. Cioè, perché la parte sopra... Era la parte di legno, comunque. Era di legno. Quindi c'è il muretto, diciamo, alto un paio di metri, con qualche crollo. Sicuramente non è sicuro, no, in generale, però per portare soccorso, tra virgolette, diciamo, si può fare, ecco. Cioè la parte sopra è completa, cioè è a cielo aperto di fatto adesso, è completamente andata. Intanto chiedo anche se ci sono dei feriti. L'edificio di fianco, vedi che una buona parte, diciamo, aveva preso fuoco e quindi la parte sopra del tetto è bruciata ed è aperto. Lì non sembra essere troppo stabile, però non dovrebbe inficiare, diciamo, il fatto di andare all'interno dell'area bruciata completamente. Ma mi sembra proprio tipo un'esplosione. Allora, se vuoi andare dentro, ovviamente hai più possibilità di capire un po'. Allora, dall'esterno, prima vedi a uno dei tizi che sono lì, chiedo se ci sono dei feriti o qualcuno. Stiamo andando a guardare adesso. No, prima. Se qualcuno è uscito dalla casa, magari intossicato. Fanno qua, si vede c'era la signora che abitava lì, che sì, non sta, un paio di signori che non stanno troppo bene, però sembra che se la dovrebbero smaccavare. No, ma non sono, vedi, tipo due che stanno in un angolo a bere un po' d'acqua che tossiscono ogni tanto. Boh, allora passo lì veloce, magari con medicina gli do qualcosa. Vai. Stivo di tiro. 9 più 3, 12 più 4, 16. Grazie mille. Mi sento molto meglio. Morirete di cancro. Cosa? il signor zodiacale, ma io sono pesce. Ciao, Beth. Benvenuto nel mio mondo. E poi se l'asa si avvicina. Sì, sì, io. E vado, tu vai dentro. Vado, io lo raggiungo, diciamo. Allora, la gente sta cose. Cercando di guardare tra le macerie, di fatto, all'incerca, diciamo, di cose. Mi vuoi fare un perception? 24. 24. Allora, diciamo che sicuramente ti sembra la sensazione che ci sia, insomma, è stato veramente un incendio molto, molto forte, insomma, perché... No. No, però nel senso, sì, sì, c'è sì, qualcosa di strano qua, insomma, di... cioè non sembra essere... Una mano umana. Cioè non sapresti dirlo, eccetera, però quello che vedi sicuramente, mm-hmm. vedi un piccolo bagliore argenteo, metallico, tra le macerie, sotto una, sembra una parte di colonne ceneri. C'è qualcun altro con me? C'è gente che non arriva, nessuno ti parla. Provo ad alzare quello che c'è sopra e guardare sotto. C'è neanche il cammino. Vedi, trovi una fiaschetta. Quella che sembra essere una fiaschetta. Prendo. Ok. In cameri, quindi. E cosa fa invece Arian? Ah, io mi avvicino a lui nella sua zona. E io continuo a per guardare. Il resto non ho riscontrato la presenza dei simboli. Ok. E la tua spilletta sembra non aver dato segno. Ok, infatti ti volevo chiedere se premendo cose. Ti chiedo se ho notato qualcosa di particolare. Io cerco di capire se un po'. Mi puoi fare un tiro o di investigation oppure di intelligenza. Come devo scrivere? Su che cos'è investigation? Ma cos'è? Fiaschetta per dei cuori. Uh-huh. Sì, esatto. È più o meno c'è uguale. Un pellicano. Sembra che ci sia un diciamo disegnato un pellicano. Un pene di cane? Sì, un pene di cane. Ti faccio intelligenza tanto meno. 5, niente. 5. Sicuramente una candela. Diciamo che sicuramente anche a te sospetti che, diciamo, possa essere un, diciamo, cioè, successo sicuramente qualcosa di, cioè, particolarmente forte per aver generato un tipo di incendio di questo tipo, cioè qualcosa deve essere, insomma, veramente bruciato in modo molto molto pesante e, o per tanto tempo oppure in modo molto, diciamo, alto, però in questo momento farsi fatica a dire di più. Ma magari c'è una cassa quello che tendenzialmente ti rendi più o meno conto è che probabilmente se c'era qualcuno dentro è morto, facilmente è morto. Ok, boh. Se non c'è altro che attirò l'attenzione, io tornerei qua sulla nave. Faccio tipo un cercare per vedere se aiuti gli altri a cercare intorno. Perception. Per cercare pezzi di corpo da mettere in. Esatto. Da prendere. Non faccio la collezione. Che brutta persona che sei. 12. Allora, insieme. Dobbiamo fare il bagno nel sangue, poi c'è il cadavere. Non ho fatto il bagno nel sangue. Insieme ad altri trovate delle ossa. Sparse però. E tra queste ossa c'è anche un teschio che sembra un teschio umano. Ma riconosco se è morto nell'incendio, se non sono ossa che angeli. Faccio una prova in medicina. Sì. Se è uno scheletro non può essere morto nell'incendio. Effettivamente. Beh, se l'hanno trovato nell'armadio... Mm. 14. Ti sembra difficile che questo teschio possa appartenere a una persona... dell'incendio, perché comunque appunto è già un teschio, però pieno di cenere, non sei, però prendo un po' di cenere, materiale, diciamo, per incantesimi, diciamo che quelli che sono attorno a te lo danno per certo che fosse uno di quelli che vivevano lì. Le altre ossa, per quello che vedi tu, cioè vedi anche effettivamente quello che potrebbe essere un, però potrebbe tranquillamente essere un animale secondo te, che magari è morto dell'incendio e non un essere umano. Quindi c'è un teschio umano e c'è un teschio umano, esatto. E poi ci sono tipo, c'è una specie di qualcosa di carbonizzato con delle ossa, però secondo te potrebbe essere più facile che sia un animale. Chiedo a Eric, hai mai visto delle ossa così? devo fare un mi qualche mi posso averle viste. Intelligenza. 12. Ma anche secondo te è probabilmente più facile che sia un animale, potrebbe essere un gatto magari. Non è idea, può essere piccola. Sì, c'è una roba carbonizzata lì in mezzo, cioè, o effettivamente potrebbe essere che magari l'ha tranciato in due la colonna che c'era sopra, però diciamo che sicuramente è difficile da riconoscere, però la sensazione vostra è più facile che sia un animale. Ovviamente molta gente invece dice, ecco, come non ce l'hanno fatto. Boh, rifaccio un detect magic. Va bene. E cammino lì nelle rovine. Senti la magia. A parte quella di Lase. Esatto, di Lase. Non senti più nessuna magia in quest'area. Il che ti fa venire il dubbio sul fatto che fosse l'area che avevi visto l'altra volta. Allora dico, vabbè, Eric. Il bella Lase. Vabbè, Eric. Direi che a questo punto si può. Sì. Però come ti dicevo, è sospeso. Vabbè, lo seguo. Torno alla casa. Sì, vengo anch'io con loro. Tanto so, ho già capito dove vuole andare. Cioè, anche il personaggio che vuole andare. A dormire? Sì. E torno alla casa dove loro hanno ucciso Dove buttava giù la porta. Sì. E qualcuno si è svegliato in quella casa? Visto che dell'incendio sono svegli, in questo momento lì non c'è nessuno. Gli hanno tirato giù la cacca perché volevano dormire, quindi immagino che c'era un cazzo di incendio. Esatto. Cioè tu arrivi nel vicolo, tanto un mucchio di incendio si ronzolava proprio con te per toccare. Ti arrivi, stavo prendendo a martellate la porta. Ti arrivi nel vicolo dove hai sfondato la porta a martellate, e cioè la porta sfondata e il vicolo è vuoto. Riprendo il biglietto che avevo lasciato. Quindi entri dentro per cercare il biglietto. L'avevo lasciato lì all'ingresso. Ah, l'avevi buttato. Ah, vabbè, ok, sì. Vedi il biglietto. Però, dentro la porta. Va bene. Ok. Allora, lo riprendo. E poi chiedo a Eric. E puoi aprirmi la porta, per favore? Sì. Ah, davanti. La porta davanti della casa. Ok. È chiusa, immagino. E allora la porta è aperta. Ah, ok. ok, puoi tornare. No, puoi vedere se c'è qualcuno senza farti notare. Vero. No. Tanto poi lo vedi, lo ammazzi, non ho capito perché deve. Boh, così. Fa tutti in stealth e poi tanto entra da dentro e lo apre. Allora, tu apri la porta in modo molto circospetto. L'unico problema è che questa porta è molto scivolante di suo e quindi fa un po' di rumore. Mm-hmm. Vedi, si sente qualche cosa, reazione. Allora, dentro vedi una sala, tra virgolette, e con un tavolo. Beh, questo immagino siano al primo piano almeno a dormire, perché se li hanno tirato da sopra, hai detto. Allora, praticamente c'è una sala, come dicevo, un tavolo eccetera, e poi vedi praticamente la scala che va su. Ci sono varie sui lati, ci sono varie sedie, quella che è di fatto l'equivalente di un caminetto, dei banconi e vari attrezzi / vestiti un po' in giro. Beh, mi giro e dico a lui qua la scala che vedi su è una di quelle scale praticamente a pioli, praticamente deduci che dia sopra probabilmente alle stanze da lei. Qua al piano terra non c'è nessuno, gli dico, probabilmente sono di sopra se sono in casa. Non sono altri incendi. Devo andare a vedere di sopra. Sì, sentiamo un attimo. Allora vado verso la scala pioli. Mentre penso all'incantesimo di usare. E guardo, e c'è tipo una porta / botola, o è aperto? Allora, perception. 24. Allora, senti i rumori di passi sul legno sopra. Probabilmente qualcuno sta. Si sta muovendo su. Torno indietro all'ingresso e glielo dico. Okay. C'è qualcuno sveglio? Okay. C'è sicuramente qualcuno che si sta muovendo. Allora, busso alla porta. Entra, cioè non proprio entrando, però spingendola un po', prendono di più. Ok, allora entri quindi così. No, aspetto prima di entrare. Da dentro senti una voce. Ma chi è? Che cosa volete? Però non senti ancora, non vedi ancora nessuno. Sì, sì. Cioè se non l'apri di più, è quello che è rimasto aperto, così lascio così. No, ma apro un po', cioè nel senso, busso, la porta era già aperta. Sì, non è la spalanca. No, però comunque un po' già. Beh, aperta. Io comunque ci sono dovuto entrare. Esatto. Sì, ho capito, ma tu sei mingalino. Vabbè. Però comunque nel senso, se c'era comunque fuori un filo di luce, basta, cioè se si può. No, no, sì, ho capito, no, la mezzo apro, proprio. Okay. Cioè, busso. D'accordo. E la mezzo apro. Quindi guardi dentro, vedi cosa c'è, per vedere cosa c'è o no? No, non guardo. Okay, per il momento. Ecco. Senti, ma cosa, chi siete, cosa volete? E non avete sentito il casino che c'è stato? Siamo tornati adesso, pare che sia risolto. Ma chi siete? Cosa? Faccio un perception. Anche sta. Ah, su aspetta, che cos'è? Aspetta, ma tu. Cioè, vedi un signore. Cioè, sicuramente più giovane di te. Ma comunque non più giovanissimo, che arriva con la candela e dice: ma tu sei quello che ha spento l'incendio, ha invocato la tempesta. Sì, sei tu. Cosa e vuoi? Tu sei anche quello che si è sporcato di merda. Cosa vuoi? Tu sei qua. Puzzi di merda, però. C'è ancora bisogno di aiuto, dobbiamo rivestirci. No. Ma quando vi siete svegliati, no? Avete sentito dei rumori strani a un certo punto della notte? Stiamo facendo le indagini per l'incendio. Riesco a capire, sì. Sveglio, e boh, no? Cioè dipende se tu lo vuoi. E persuasion se lo vuoi, no, cioè se lui persuadere non... di qualcosa. No. Ah, grazie. No, nel senso, cioè, se lui ha queste parole, cioè, ci sta, nel senso. Non fa troppo. C'ha a giocare anche te, appena mi finito di vendicarsi, di fare di scadere nell'ubriachezza molesta. Oltre a quella allora. E guarda, ma allora, ma lui è su. Sta scendendo la scala. Cioè no, in realtà aveva sceso la scala nel momento, cioè sta scendendo la scala e adesso si sta avvicinando a te. E ti fa, ma ho sentito dei rumori molto molto forti, abbiamo sentito prima, e poi un gran trambusto di gente, c'era qualcuno che, boh, non so, stava facendo casino, proprio come se spaccando il muro da una strada. Ah, con i rumori molto forti avete fatto qualcosa? Ma credo, non lo so... Cioè, pensavamo fosse qualcuno che stava facendo, che era qualcosa ubriaco, per cui abbiamo detto di smetterla, ma poi dopo abbiamo visto tanto trambusto e siamo andati. Qualcosa che magari potrebbe aiutarci a. Non so, gli avete lanciato qualcosa. Ma forse abbiamo lanciato giù una secchiata per farlo star zitto. Perché sì. Siete lei e sua moglie? No? Siamo tanti qua, ci sono vari coloni che abitano qua, siamo 4-5 famiglie. Sterminiamoli tutti. Vabbè. Sterminare. No, vabbè, troppo. 5 famiglie. Ma cosa posso fare per te? Cioè, Madonna, che scrupoli adesso. No? Vabbè, cioè... 4-5 famiglie, non è che uccido. Vabbè, saranno una decina di persone. 15, to. Ho capito, non è che faccio un massacro per un po' di merda. No? Beh, starebbe però. E vorrei solo sapere chi ha lanciato il secchio di merda a questo punto. Lo so, perché io la finestra ce l'ho sull'altro lato, però sentivo questi rumori, ho sentito quelli vicino che gridavano a qualcuno di smetterla e ho sentito che lanciavano, e poi ho sentito che dicevano che aveva dovuto lanciare una secchiata per farlo smettere. No. Vai se vuoi. Quando ci si trovi qualcosa mi sa decida. Mi riesci ad indicare o farmi portarmi giù un attimo? Ma perché? Perché mi chiedi questo? Perché che vorrei cosa? Parlarci un attimo, per favore. Stiamo tutti dormendo, signore, non può tornare domani. Signore! È stata una serata molto stancante. Sì, anche per me ho spento un incendio. Lo so, siamo tutti grati per quello. Provo a fare persuasion per spingerlo, nel senso, cazzo, sono un eroe nazionale. 12, 15, 16. D'accordo. Di fa, vabbè, se proprio lo ritiene necessario, adesso vado un attimo a sentire. Va su, vedi che va, apre, scusate, poi senti tipo arrabbiato, ma cosa vuoi adesso a quest'ora, eccetera, ma devi mandarlo via, chi è, cosa vuole, poi senti tipo un po' di voce sommessa, e poi dopo un po' ritorna giù con quest'altro uomo, che ti fa, mi ha detto Clerm che cercava, ma lei sì. Vedo che lei è quello che ha aspettato. Esatto, è lei che ha lanciato il secchio di merda giù per le strade. E ho sentito. È un'indagine di mercato. Oddio, un secchio di merda. Io ho portato i secchi i secchi d'acqua. Cosa? Ci siamo svegliati. C'era qualcuno che faceva un casino assurdo qua. Poi dopo, a quanto pare, è partito questo incendio. Siamo andati ad aiutare. Sì, che cosa posso fare? Ma avete lanciato qualcosa dalla finestra? Tanto prima c'è stato un incendio, poi il casino, quindi magari parla di un'altra persona. E guardi, io. Io sono stitico. Non lo so, forse mia moglie ha lanciato. Non intendo. Lo no. Per far stare. No, no. Sentivamo proprio delle martellate come contro il muro. Sì. Quindi. Esatto. Cioè, esatto. Sta osservando tutti, forse mia moglie. Può essere, non lo so. Perché hai cosa vuole sapere? Perché la testa su cui è finita la merda, ma era la mia. Ah, così proprio glielo dici. Scusi, ma non capisco. Lei stava martellando. Cioè, è passato per sbaglio, è arrivato, non capisco. Yeah. O stava martellando. Cioè, c'era qualcuno che martellava. Cioè, proprio come con un martello, proprio sentito contro la pietra. Tanto, scusa, visto che alla fine lo ammazza, il risultato non cambia, quindi ammazza. Non lo so, ho degli scrupoli adesso, ci sono un sacco di persone. Non capisco. Degli scrupoli. Cioè, se abbiamo beccato lei nel passaggio, mi scusi, noi cercavamo solo di far smettere, non so, credo fosse un ubriaco che sbatteva contro il muro, mi dispiace. Se lei passava in quel momento per aiutare... E l'abbiamo beccato, mi dispiace davvero. Come si chiama sua moglie? Mia moglie si chiama. Perché? Perché lo vuole sapere? No, devi come si chiamava sua moglie. Come si chiamava? Mia moglie si chiama Carol, perché cosa? Si chiamava? A posto così, grazie, buonanotte. Ma, scusi, che cosa, perché è venuta a svegliarci a quest'ora? Non si preoccupi, cioè, io mi dispiace io. Se lei. Sì, bene, grazie per le scuse. Un posto così, per ora. Ma sa che cosa è successo fuori? Perché a quanto pare c'era qualcuno che stava martellando, lei sa qualcosa di più. I peccatori sono stati puniti. Ah, beh, mi fa piacere questo. Ma posso offrirle qualcosa? Ho visto che lei ha fatto quell'incredibile cosa. Come ha fatto? Può offrirmi la vita. sono i poteri che gli dei concedono a chi prega. Ora può tornare a dormire. Ti guardano con faccia basita, troncano, sono sconvolti e tutto questo. D'accordo. Buonanotte. Andiamo il giorno dopo? Sì, sì. Ok. Allora. E su un foglio mi segno Claire Villaggio. D'accordo. E qui c'è Nicler proprio. Ok. Dove sta la casa più o meno? Ok. E d'accordo. Va bene. E allora, il giorno dopo, voi quindi andate alla locanda, giusto? Voi tre? No, alla nave. Torniamo sulla nave, no? Dormiamo no, là. No, dormiamo nella locanda. Locanda? Ah, ok. Locanda, locanda. Nella locanda, se c'è qualcuno sveglio, mi faccio preparare un bagno, se possibile. E fai un persuasion, perché... 11 più 3, 14, 15. C'è chi ha assistito alla tua opera e acconsente, quindi a, anche se è molto tardi. A ovviamente dico mi dispiace, ma ho spento un incendio, tutto sporco. Ok, il giorno dopo voi vi svegliate e... Anche il pirata si sveglia. Mentre fate colazione, praticamente fare una prova. Entra in a un certo punto entra nella locanda, lo vedete che fa fatica quasi a reggersi in piedi. Il buon vecchio Quakart. Oh, buongiorno Quake. Non parlare così forte. Buongiorno Quake. Con la voce da gigante. No. Facendo taumaturgi per fare il bombardamento. Questa voce stridula e fastidiosa mi ricorda qualcosa. Tu ieri sera sei venuto a chiedermi qualcosa. Che cosa? Ho chiamato diretto. Ma tanto io gliela devo ridare, cioè, neanche... Ah, giusto, non me la sono fatta riconsegnare. Esatto, ce l'ho io. La mia pietra, ce l'hai se tu. Se c'è tra l'altro, giù. Esatto. Sì. Dove l'hai messa? Ah, te la do subito. Arian, una pietra, grazie. Quale pietra? Arian. Hai dato a lui la pietra? Per il cazzo, Arian. Arian, non sono io, Arian. Arian, la pietra. Sarà tipo Harry Potter Harry, della pietra filosofale. Arian, non mi vedi. Eric, la pietra. Quale pietra? Te l'ho dato ieri sera. Non ho ricevuto nessuna pietra. Dai, no, non è il cazzo. Devo fargli persuasione. No, perché te l'ho data, coglione. Puoi provare a ingannare. Vabbè, ah. Questo è. Non c'è solo tiri in questa cosa, solo. Che l'hai dato l'ignoto. Vabbè, dai, gliela do, andiamo avanti. Però comunque, tra l'altro, esatto, cioè, tu dell'ognomo proprio ti sei interessato. No, io l'ho chiesto com'è andata e mi hanno detto tutto bene. Ah, è il posto. Tutto bene. Ora, vabbè, io sarei curioso se voi non assisteste alle cose in cui non ci siete, se avreste questo tipo di combattimenti. No, di nel senso... comportamento, tipo. Ah. Ok, va bene. Nel senso, so che. Nel senso, so che l'obiettivo. Ah, so che cioè, per una cosa così si fida, per altre tipo cazzatissime. Tipo, no, adesso mi devi dire indagare. No, nel senso, l'obiettivo era ucciderlo. Lo gnomo. Se mi dice tutto bene, sì, ma io l'ho ucciso. Tra l'altro, Filippo è entrato. Quindi, se lui non mi dice nulla, generalmente. Filippo non parla. Sì, esatto, quindi la comunicazione ha ho capito, non parla, però visto che eravamo d'accordo di ucciderlo, non vado a pensare. Più o meno. Non vado a pensare, ah, sono messi d'accordo con lo gnomo per questa cosa, soprattutto adesso che mi hai dato la pietra. Vabbè, e gli dico, per il disturbo gli do la spada. Oh, bella, dove l'hai trovata? Sapessi, tu perdi sempre tempo. Noi guadagniamo. Regalo di un amico. Ah, beh. Grazie. Regalo. Bene, Pivelli d'acqua dolce. Quindi com'è andata la serata? Ah, Quake! Entra in un orecchio, Quake. Al contrario di voi, che perdete tempo in cose... Ridammi la spada. Tanto non ho te la ridarò colpo su colpo. Ho scoperto che in queste acque, prima dell'avvento, senso a terra, Ciccio. La tua prudenza dovrebbe suggerirti di non fare questa osservazione. Erano sotto il controllo di un pirata che era presente all'evento di ieri sera il buon vecchio Garruken, che è il capitano della squadra nera. Sì, quel tizio che era spiaggiato con te sul divano. Esatto. Cocco. E fortunatamente, a quanto pare, è ancora rimasto in queste acque e ha giurato di riprenderle dal controllo del malvagio il capitano Krakenberg. E quindi ci ha assicurato che nel caso ci servisse il suo aiuto. Ma come fa a ricordarsi queste cose? Non dovrebbe fare un tiro dopo la sbornia? È che era prima del... Vabbè. È un ricordo confuso di queste cose, ma è abbastanza sicuro delle sue... Dai, quotamele queste cose, però. È che essendo parecchio... Non è che sta interpretando abbastanza bene. Tra l'altro sono immune forse anche agli effetti dell'alcol, essendo paladino, una non posso braccare. E non ti puoi neanche disinfettare gli effetti dell'alcol, secondo me. Allora non ti puoi neanche disinfettare le ferite, allora. Eh no, perché tanto sono immune anche alle malattie. Quindi... No, quello è vero. Poison è no, poison forse no. L'alcolismo è una malattia. Poison non credo, se no sarebbe troppo banato. Molto bene. Forse dopo. Forse più avanti ce l'hai. Beh, quindi voi che cosa avete combinato di bello ieri sera? Grazie per avermi fatto entrare nella festa. È stata un'esperienza unica e piena di vita. Prego, caro Philip, quando vuoi. Mi ho fumato proprio su con un vecchio. Wow. Conosco in un incendio? Beh, la tua età sei ancora bello zillo. Per lo due strano però. No, mi sono lavato. Più che altro dire prima ho fumato e poi ho spento un incendio, è come dire, cosa ho fatto? Poi per sbaglio e però vai per spento. Mentre abbiamo recuperato con la spada da un amico comune. Beh, molto bene. Spero non abbiate fatto nulla di illecito per procurarla. No. Io non ho parlato. Lui no. No, no. Se l'ho preso nello schifo in testa. Va bene. Adesso fate quello che volete, lasciatemi un paio d'ore. Oggi si parte, no? Non ho capito la fine della storia del pirata. Che ci ha promesso di aiutarci qualora ne avessimo bisogno. Oggi non si partiva? A un certo punto, vedete, nella locanda entra un tipo abbastanza ben vestito, tutto sommato, per quelli che sono gli standard da queste parti. Cioè non elegante, però diciamo tra virgolette curato. E vestiti come quasi militari in un certo senso. E parla con l'oste. E indica la vostra direzione. Dopodiché arriva dalla vostra parte. Voi siete lei, signore, indica te. Mi hanno detto che era sul luogo dell'incendio ieri notte. È stato, diciamo, aiutato dello spegnere molti cittadini, sostengono, molti colori sostengono. No, lei è stato deciso, sì. Da solo. Già. L'ha anche appiccato da solo. Ah no, questo non dovevo dirlo. Beh, io con che ho il piacere di parlare. Io sono Reynar. E sono l'aiutante, sono intendente del governatore di questa colonia, della colonia di Kafkan. Mi accontenterò come ricompensa di una statua al mio dio che posso erigere da qualche parte. Sì, ecco, non pensavamo in realtà a nulla del genere. Che riconoscenti. In realtà, siccome tutti parlano di lei e del suo gruppo, diciamo, della sua squadra, insomma. Squadra. Ragazzi, siete la mia squadra. Volevamo, come eravate lì sul luogo dell'incendio ieri notte, sapere se potevate darci una mano per scoprire che cosa è successo esattamente. Certo, possiamo dare una mano, no? Cioè, lui non sarà molto utile, però. Cosa? Niente. Da quello che mi dicono, voi sarete in partenza per... Nessuno risposta ancora. Da quello che mi dicono, voi sarete in partenza per il nord. Sì, oggi. Montana dell'Orso. Infatti, per quello, quindi... Sì, beh, ecco, la nave non partirà oggi. Forse vi hanno già informato di questo. No. Tu che sei venuto dalla nave, Quake, sapevi qualcosa? Non ho idea di da dove sono venuto. Nessuno ti ha detto nulla, Quake. L'unica cosa, quando sei uscito dalla nave, quando sei sceso dalla nave, praticamente era il delirio più totale. Cioè, nel senso, non c'era una persona sveglia a momenti, e quelli che lo erano vomitavano da tribordo e varie parti. E dal proprio tribordo, no, scherzo. Qui nessuno ti ha detto nulla, però tu. Cioè, ti è parso, diciamo, abbastanza scontato che nessuno sarebbe stato in grado di udire. Cosa cazzo stai facendo tu? Raccoglie il droppo. A me, immagino che dare la festa ieri sera non sia stata una grande idea. Vabbè. Con chi stai parlando? Con Rain? Sì. Tanto gli altri non mi cagano. Gli altri hai invitato metà nave. Il capitano Tyus è solito dare una festa il giorno prima di partire. Ma e poi che diventa sempre il giorno prima del giorno prima di partire. Diciamo che la cosa è tendenzialmente sempre così. E ad ogni modo, a prescindere da questo, la situazione al momento è un po' critica, quindi avremo bisogno, diciamo, se potete darci una mano, vi saremo grati, ecco, sicuramente. Dov'è la mia statua? Voi sapete qualcosa dell'incendio, un luogo che conoscevate? L'incendio? Qua l'incendio? C'è stato un incendio nel caso. Che bello che ti ho detto che ho spento. Ma infatti te l'ho detto. Non ascolta. Cosa avete fatto ieri? Ho fumato, ho spento un incendio. Quindi non avete, insomma, siete finiti lì per caso? Ma noi eravamo poco distanti, abbiamo visto la gente che passava, anche che era questo incendio, abbiamo visto il fumo in lontananza. Ma quindi eravate già in giro, insomma. Sì, sì. Nei dintorni lì? Più o meno nella zona del pozzo. Per quale motivo, se posso chiedere? Ma è una passeggiata, perché il nostro amico lì non era molto a suo agio durante la festa. Quindi siete stati alla festa della nave? Sì, inizialmente sì. E poi siete andati in giro? Sì. Quindi oltre, voi però alloggiate qui alla questa locanda? Sì. Quindi siete andati oltre la vostra locanda per questa passeggiata? Sì. D'accordo, ok. Cioè, alla fine questa è l'ultima città che vedremo, cittadina che vedremo prima di finire in buco. Ho fatto una passeggiata per la città. Certo, ok, d'accordo. E quindi non avevate nessuna avvisaglia di questo incendio prima di... No, io me ne sono accorto quando ho visto la gente passare che gridava prima, non so, gli altri, cioè, se hanno notato qualcosa. No. Anche perché ero con Kappa. Quaker. Appena ci siamo accorti dell'incendio, ci siamo adoperati, mi sono adoperato. Certo, una questione, non lo metto in dubbio. Va bene, e quindi non conoscevate, insomma, siete arrivati da pochi giorni, quindi immagino che non avesse alcun rapporto, insomma, con chi viveva. Non so neanche chi. Perché si viveva lì? Ho provato a chiedere ai vicini. Alcuni coloni commercianti. Ho incontrato i due anziani che gli ho dato un attimo di soccorso medico, primo soccorso medico. Poi non so di altri che abitassero lì. Voi conoscevate qualcuno per qualche... No. No. Deception. Pensavi di passare inosservato. 18. Ok. E... va bene. Ma quindi eravate anche lì, insomma, nel luogo lì per avete quando c'è stato, insomma... Ho cercato, noi siamo arrivati poi dopo, però voi eravate penso già andati via fondamentalmente perché mi hanno detto. Sì. Ci siamo accertati che non ci fossero. Avete notato qualcosa di strano? A parte il fatto che sia andato fuoco. A parte che. Boh, non so, forse il fuoco sembrava essere stato molto intenso, però. Già. Forse è un po' troppo intenso. Più di qui abbiamo provato ad indagare un po', ma non abbiamo. Capisco. Tu hai scoperto qualcosa? No. Deception. Perché non stai zitto? Eravamo io e te, l'altro secondo me. 11. Proprio nulla di nulla. Confermo quello che ha detto il mio amico. Ma c'eri anche tu, quindi? Sì, con lui. E cosa... anche tu stai facendo la passeggiata? Sì, eravamo io. Eravamo insieme. E Filip. Quello lì che uccide i topi all'angolo. Ma, scusa, lui aveva detto che era con l'altro? L'altro? Prima. Tu invece... Eravamo alla festa prima. Prima tu, festa. Lui è rimasto alla tu festa. Tu che sembri ubriaco. E giochi a Pokémon. E... Tu c'eri con loro, quindi? No. Eravate tutti insieme? Io ero sulla nave. E sono ancora sulla nave. Ha avuto un incontro con una balenottera. Vero, Quake? Non siamo... una balena, sì. E invece, quindi anche tu, quindi voi due eravate sulla nave, voi due eravate a fare la passeggiata. No, eravamo tutti sulla nave e noi tre siamo usciti. Noi siamo andati a fare... lui è rimasto perché lui era a disagio sulla nave. Ma quindi, non è molto scusami, e si rivolge a te, Filip. Ah, è tornato. E tu non avevi detto che eri sulla nave al momento dell'incendio? Non ti sentiamo. Ah, scusa. Io al momento dell'incendio ero pure sulla il nave. Microfono. Non ne frega niente. Tu al momento dell'incendio? No, avevo tolto il microfono perché ero andato di là. Dicevo, io al momento dell'incendio ero sulla nave, mi pare, o no? No, sei in cosa, cioè, allora, cioè tu hai detto che eri sulla nave perché pensavi di essere sulla nave, cioè in realtà no, cioè, non lo sai con esattezza, ma probabilmente no, eravate lì in giro. No, io ho detto che ero con Quakeheart. Sì, tu hai detto così. C'è incendio, sì. Ok, però non è vero, probabilmente. Cioè, da quello che pensi non è vero. Non lo sai per esattezza, però sei quasi certo che non sia così. Ma scusa, l'incendio non era prima della festa? No, sicuramente sicuramente è avvenuto durante la festa. Dalla ricostruzione che fai tu, tu non sai esattamente quando è partito. Però è facile che sia partito quando eravate già in giro, probabilmente. Non ne sei certo, ovviamente. Non ne puoi essere certo, però. Com'è possibile se l'ha visto mentre noi eravamo alla festa? Non è vero niente. Senti, no, hai visto un incendio? Sì. No, eravamo in giro. No. Io mi pare che eravamo tutti in giro. No, eravamo in giro che stavamo... Quando porta. Io ti ho inseguito, mi sa che tu l'avevi già visto l'incendio. L'avevi già visto? Come facevi l'avevi già visto? Se no quando l'ha visto, scusami. Ma lui non l'ha visto, semplicemente si è arrivata della gente così. No, quando Lasa ha visto l'incendio e ha inseguito dopo il tizio. Era da solo. Questo non me lo ricordo. Scusa, il tizio. Però c'è stato un momento in cui uno di noi ha visto l'incendio. Ed era Lasa, mi sa. Ed era da solo in quel momento. Ah, cazzo, è vero però, è vero, me la ricordo sta cosa. Sì, hai ragione, hai ragione. Bene che gioco a mezzi, però, insomma... Ah, hai ragione, hai ragione, hai ragione, scusa. Hai ragione, è vero. Sì, tu l'hai visto con il tizio, è vero. È vero, è vero. Adesso non mi ricordo. È vero, chi è che l'ho visto io? L'hai visto con i tizi che avevi quello che avevi cooptato. Cioè, aveva detto, ah, guarda quelle fiamme là, e poi tu hai detto, ah, ok, ok, e poi te ne eri andato. Ah, è vero. È vero, è vero, sì. Vero, hai ragione. Ah, ero andato via perché avevo visto l'incendio? Boh, te ne eri andato via fondamentalmente perché te ne eri strafottuto, una roba del genere. Ah, ok, no, non mi ricordo. E quello per perché... quello gli ho detto che ero con quei carte che ah, io avevo... dovrei essere stato alla festa. È beh, vero, però tu non lo però sai. Però tu non lo sai. Però sarei stato alla festa, probabilmente. Sì, ok, ma non lo sai. No, è vero, però ci sta, vabbè, non lo stavi mentendo, ma infatti non ti ho fatto fare un deception, ok. Ma qui, ah, quindi io ero andato via perché che eravamo ero... in giro, cioè non so che sì. L'incendio, noi eravamo in giro a un certo punto della serata. Sì. Ero andato via okay. Perché c'era l'incendio, quindi, ok. Tu avevi visto l'incendio e avevi detto, che palle, e poi te ne eri andato, penso. Una roba del genere. Sì, è vero però sta cosa, è vero. È vero, tu l'avevi visto probabilmente molto prima di tanta gente, effettivamente, perché state andando proprio lì. Cioè voi cioè probabilmente boh, l'avranno visto però le guardie, cavolo, se saranno le guardie. Tu pensi anche quello effettivamente, però probabilmente quello forse uno dei di quello che era contesto tra uno tra i primi a vederlo probabilmente. Vabbè, quindi rispondendo alla domanda, io ero alla festa, okay. Ero con Quakert, sì. E poi ci ha raggiunto quell'altro, Caterian. D'accordo. Capisco, sì sì. Vabbè sì, quindi ci può stare che voi si potevate forse anche accorgervi effettivamente di ste fiamme. Effettivamente. Ci sta. E vabbè. Anche però, perché, però... anche perché, scusa, in realtà, cioè quello che penso io è che quando siamo usciti, che Lasa è andato a cercare lo gnomo. Sì. E lì in teoria bruciava già. Sì. La durata del viaggio sarà stata neanche 20 minuti. Sì, sì, sì. L'inseguimento, sì, quindi no. Stava che bruciava già da prima. Sì, sì, sì, bruciava. Allora, il fatto è che probabilmente comunque vi eravate anche resi che c'era qualcosa di strano. Quello sì. Ci sta. Va bene, va bene. Vabbè, allora non è un grosso problema comunque. No, quindi cosa sì, che sì, dovremmo no, era fare per questo tipo? Cioè, io gli dico che sì, sì, festa sì. No, e... no, sì, sì, sì, ci sta, ci sta. Cos'è che dovremmo fare per questo tipo? Visto che partiamo un giorno dopo, lui si è venuto a chiedere. No, lui vi dice, ma vabbè, ok, se avete informazioni, oh. Se riuscite a riaccumulare qualche informazione, eventualmente fateci sapere, d'accordo? Della guardia cittadina. Grazie questo. Comunque per l'aiuto, avete la gratitudine della guardia cittadina. Tutta la comunità. No, questo è quello che ti dice, è più o meno il secondo in comando della colonia, da quello che hai capito. Ok. D'accordo, vi dice così, dice ok, se avete altre informazioni eventualmente lasciate, contattateci, insomma, volevo sapere appunto se avevate notato qualcosa di particolare sul luogo dell'incendio, insomma. Va via? Se non gli dite nulla, se dite non lo sappiamo nulla, noi non c'eravamo, no. Ma c'eravate, non c'eravamo. Oltre a quello che abbiamo già detto, di particolare non abbiamo. D'accordo, vi ringrazio ancora. Appunto, se riuscite a scoprire qualcosa eventualmente o se ho altre informazioni che vi vengono in mente, fateci sapere. Va via. Va via. E vi faccio vedere quello che ho trovato. Una fiaschetta. Ok. Una fiaschetta con un simbolo. È una fiaschetta metallica, chiaramente. La subì è stata corrosa dal fuoco evidentemente e sembra esserci un disegno di un pellicano sopra, diciamo smaltato sopra. Ehi pellicano, te dice qualcosa? No, lui è Albatros. Vabbè, sempre un uccello in ambienti marini. Fai vedere. E vomita. Mi è venuta fame. Mi sembra chiaro. È un pellicano. C'è una casata che ha il simbolo di un pellicano, però questo sembra non sembra proprio un simbolo araldico, sembra semplicemente un pellicano. Tu hai mai visto idea? Questo simbolo? Cazzo, l'ho preso io, cazzo. quindi sì. Non so, non credo di poter fare prove particolari. Cioè, alla fine è una fiaschetta che magari è l'unica cosa che è l'unica cosa che ho trovato lì. Però non sapevo se darglielo o meno. Canta, fammi per sé. Diciò. Allora, mentre te la rigiri tra le mani, ti sembra che nella parte sotto ci sia qualcosa. Fammi vedere. Però sembra che ci sia una scritta come tipo fatta con un coltello, tipo, no? Qualcosa tipo Harold. Scritto? Harold forse. Potrebbe essere, sì, sembra tipo Harold o Arnold o Harold, qualcosa del genere. O Harold Arola, qualcosa del genere potrebbe essere. C'è una scritta qui sotto. Qualcuno che si intende di scrivere potrebbe si intende di scrivere. Non devo di me, tu lo sai leggere. Perché tu lo sai leggere, sì che sai leggere. Sì, che so leggere. Non lo so scrivere. Diciamo che il mio grado di alfabetizzazione non è molto. Beh, non c'è più il mio PG vecchio, non c'è più Cave. Guarda cosa c'è scritto. Sì, potrebbe essere Harold. Non ho mai capito. Non mi dice assolutamente nulla. Quindi che volete fare? Volete fornire indizi o... Non so, abbiamo un giorno da passare. Tanto vale. Giochiamo da Tanto vale giocare. Ok. Beh, uno impegnato a mettere, due al cellulare e via. No, in verità io sto guardando gli incantesimi per vedere se è qualcosa di utile, però in effetti avrei dovuto dovrei cambiarli e spendere del tempo. Cosa fate? Beh, io prego. Bravo, è sempre la risposta giusta, pregare. Però bisogna pregare i dei giusti. Ma non te. No, allora è sbagliato. Cambio la selezione degli incantesimi, dato che per questo caso fumosa ci serve un segugio. Casto trova destriero. Evoco un mastino. Ok, tutto questo davanti a tutti nella camera. No, si mette in ginocchio e prega. Vabbè, che tanto c'è questo che va in giro. Una tempesta! Nella mia stanzetta della locale. Scusa, mi sembrava. Oh, limitato! Grazie per averci salvato! Non lo guarda, che non l'ho fatto. Guarda che a un certo punto ho pensato di farlo, poi mi ha detto che c'erano 5 famiglie di coloni. 5 famiglie, solo Thunderweb. E non l'ho fatto. Io però sono curioso di sapere qual era il limite, tipo 5 no, ma 4? No, 4 famiglie no, 2 sì. 3 avrei tirato un dado. 3 forse. Qual era il limite? Quindi il limite della tua morale è 3. Sulle 3 famiglie. Poi dipende, se erano bambini piccoli magari anche che meno, però. Per punizione evitare che i vostri genitori morire e poi morirete anche voi. O magari io, tanto i bambini piccoli poi se lo scordano uccidono i suoi genitori. Cosa? dipende quanto sono piccoli. Sono neonati. Pensi che te lo ricorderai? Cosa? Buono anche tu allora, zio. Purtroppo non posso fare una bella maledizione a Claire, ma quando tornerò qua la maledirò. D'accordo. Se non sarà già morta nel frattempo. Io con un bel mastino. Sì, nella tua stanza. Di nome Baldur. Bracco Baldur. C'è Baldur's Gate. Però quasi tentato di dare un'inspiration per quello che hai fatto prima. Quindi mi assume che con un paio di cose me li hai fatto cambiare. Ce l'hai anche già l'inspiration, secondo me. Sì. Allora. Esatto. Dai, potrei toglierti. No, va bene. Bracco Baldur. Ciao Ben. Best impersonare il mastino. Chi è un bravo mastino? Chi è un bravo mastino? Tu un bravo mastino. Bene. Niente, adesso. Ma parla questo mastino? Fagli siamo usare in contatto telepaticamente. Ah, quindi ti può dare delle sensazioni, tipo. contatto telepatico, sì. Non lo so, viene hai, dice altro. È schifato dall'odore che è addosso per la notte. Hai un osso. Dammi un osso, giochi alla palla. Voglio solo giocare con l'osso. Fagliano usare la fiaschetta. Fagliano usare Giulio. Come che fiaschetta, cazzo? L'hai avuto in mano già adesso. Guardami, gioca con me. Gioca con me. Guarda. Si può fare anche il contatto telepatico se abbia solo quello col contatto telepatico. Fai come prima, togli i microfoni, le telecamere, vai a dormire. Va bene, bello, giochiamo. Filip! Scusate, raga, stavo dormendo. Dobbiamo andare a caccia di un piromane. Quindi mettiti a sniffare. Sì. Voglio giocare a piromane. Cos'è un piromane? Si mangia. Il piromane, scusa. Sniffa l'odore della fiaschetta. Sì, mi piace usare un casino. Adesso se portami dal suo padrone. Subito parte, tipo, a busso. Però la porta è chiusa, quindi comincia a grattare come un pazzo la porta. Raccimola gli altri compagni di. Di compagnia. Che lo tiro giù. Il mio nuovo. Posso accarezzare il cane? Sì. Chi è che ha portato un animale qui dentro? fa tante feste. Immagino che il seguso fantasma sia anche. Però ti butta anche. Fammi una prova di forza. Sì, perché in realtà non c'è nessuno. Tu hai un pessimo rapporto con i bastini. Però il tizio ha un'aura super creepy addosso, quindi tipo lo canta e si caga in mano. Sì, in realtà sì. No, è un po' bestiale, quindi ha tipo l'aureola. Sì. Si sente un angelo. Vedete, mentre tipo Eric viene totalmente buttato a terra dal bastino e comincia a sodomizzarlo. No. Bravo, cane. Sodomizzare! Bene, dai, ragazzi, affittato la scia, andiamo. Presto! Ti calpesta proprio in faccia. La scia di cosa? Gli ho fatto annusare la fiaschetta e adesso... Il nostro fa, ehi, ma quel cane, da dove è uscito? No, scusa... Quante famiglie ci sono qui? Non abbiamo famiglie. Sì, adesso lo facciamo uscire subito. Quante famiglie? Tu hai famiglia? Sì, ho la mia famiglia. Hai altre famiglie? No, la mia. Ma cosa ti ho fatto? Hai mai cagato nella tua vita? Beh, sì, anche stamattina. Vorrei far notare che non ho... Tegno da tempesta! Quasi mai Thunderwing. Tegno da tempesta! L'ho dato una volta Thunderwing in questa campagna. Oddio! Ma presto forse lo userò di nuovo. Va bene, seguite la pista. Vabbè, seguiamo il cane che segue la pista. Sì. Vi parte a busso e vi porta in mezzo alla città. Una casa un po' però in realtà in periferia, tra virgolette, non è un paese particolarmente grande, però. E arriva da questa porta e comincia a grattare contro la porta. Oh, bravo bambino. Ora voglio l'osso. I cadaveri dell'altra sera. No, dagli un osso. Che l'abbia lasciato lì. Poi. Uno era un teschio umano. Ah, vabbè. Sì. Non c'è più sangue, non posso bagnarmi. Thunderway. No, aspetta, prima di bussare faccio busso. Busso. La fobia del bussare adesso. Quante famiglie si sparano qua dentro? Busso. Con lo scudo così. Mi avvicino e busso. Nessuna risposta. Un gusto più forte. È aperta la porta? Provate a aprire. Beh, sto bussando a un certo punto. La apro. È chiusa. Ah. E dopo seconda bussata comunque di Giulio, sentite tipo... Sono malato, vi prego. Ma c'è cercata! Vorremmo parlarle un attimo, signore. Sono molto malato. Sono un medico. Tornato un'altra volta. Della mutua. No, domani. Se sei malato, scusi, la posso guarire. Mi faccia controllare. Dai, posso guardare. Lei non è il medico. Torni. Non sono il medico, sono un medico però. No, mi lasci in pace, la prego. Sono arrivato con la nave. Mentre loro parlano, io apro la porta. Con i ardesi. Sì. Guarda che so il fatto mio in ambito medicina. Aspetta. No, fermo. Sono anche erborista. Dadi, non dà vantaggio. No, cosa hai vantaggio? Ah, cavolo, allora cos'era prima? Proficiency. No, prima, perché era vantaggio. Non prima? Hai tirato con vantaggio. Sì, prima hai sì. Detto tiro con vantaggio, ma non hai tirato con vantaggio. L'ho fatto però. Hai fatto male. Non hai tirato con vantaggio. Allora devi dirlo. No, non hai tirato con vantaggio comunque prima. Hai aggiunto il più 3. No, quello sì, però ho anche tirato con vantaggio. Non dovevi tirare con vantaggio. Non lo dovevi dire tu allora di no. Ma mi pareva che avessi tirato un dado. No. Ho dovuto farlo. Comunque, non tirare due dati a cazzo. No. Si cazzo che. Oh, che! Ne ho tirato uno. Non ho capito, cioè, hai tirato 15 dadi. Cioè, che cosa vogliamo fare? Vabbè, dimmi che cosa. 17. D'accordo, 17. Avevo fatto di più prima. Comunque, con entrambi. Ok. Va bene, apri la porta effettivamente. Cioè, riesci a scardinare. E la apro. Però comunque è bloccata. Giulio, vuoi dare delle martellate alla porta? Cioè, mentre sentivi che mentre stavi facendo, non hai fatto nessuno stealth per farlo così. Sentivi che lui, se probabilmente ha sentito, ha sparato il cavistello. Ah, ok. Vi prego, andate via. Signore, cosa volete da me? Cosa volete? Mi faccia entrare, sono un medico. Mentre se sta male, la posso guarire. Provo a fare un persuasione. Aspetta. Mentre continuano a parlare, io faccio il giro sul retro. Faccio il giro sul retro per vedere se c'è un contatto visivo tra di voi. Capito? Più non è ben disposto. Cosa? Mentre loro continuano a parlare, io faccio. Per fare il giro sul retro, facciamo un'uscita sul retro. Voilà. Faccio il giro della casa. Sì, l'hai fatto? Due e tre che si traducono in svantaggio, quindi prendo il 2, non che cambi tanto. 2, 3, 6. Ok, tornate via. Ho già sentito il medico. Lasciatemi in pace, devo riposare. Me l'ha detto anche lui. Che cazzo volete? Andate sulla nave, siete della nave. Non dovete anche partire. Andate via. Se vuole star male, stia male. Grazie. Prego. Laz, Eric, tu vai di là e guardi. Allora, c'è perception? Dietro, non c'è una porta. Però c'è una finestra piano superiore dove forse potresti entrare. Queste, no, più che altro per vedere. Queste case qua non sono come quelle altre dove sei entrato tu, che aveva una porta e poi probabilmente erano. Qui ci sono come stanze piccole con una porta ognuna, quindi probabilmente sono più singole. No, era per capire se sarà un'altra uscita, nel senso che se noi dovessimo entrare lui ha possibilità o meno di scappare. No, volevo capire quello. Però dall'altro dietro comunque vedi su una finestra potenzialmente. Io davanti, nel frattempo, mi volto verso gli altri due e faccio. C'è anche una finestra a questo piano, però è chiusa. Cioè, ok. Cioè, sono chiuse le imposte. Ok. Diciamo che in questo mondo ci sono le imposte. Vabbè, pensi... torno dall'altra parte e li informo di quello che ho visto, dicendo che per me dovremmo entrare, buttando giù la porta. Ho un'idea migliore. Cioè, ci sono delle finestre? Una dietro. Sì. Allora, ce n'è una... Non ho capito perché stiamo facendo dei problemi, però. Ce n'è una infatti, di fianco, quasi non di fianco alla porta, anche quella chiusa d'imposta. No, e poi perché una buttare sopra... giù una porta in pieno giorno, se si poteva... Una è una casa isolata, ho detto. Un po' in periferia. No, non è isolata. Ho detto che sono tante piccole porte, una di fianco all'altra. Quindi potreste pensare che sono, nello stesso edificio, tante piccole, diciamo, abitazioni all'interno. Ce n'è una al primo piano da... Allora, c'è una finestra però ha le imposte chiuse. C'è Quindi, di una fianco. imposta aperta. Al Imposta primo. Aperta su, sopra. Ok. Va bene, allora sfondiamo a spallate la porta. Ok, prova di forza. Lo aiuto. Li ho informati, torno sul retro e io salirò dalla finestra. Lo aiuto. Quindi ho vantaggio. Vantaggio per cosa? Lo perché aiuto. Mi aiuta. Ah, va bene. Ti aiuti a fare, scusa? Sfondare la porta a spallate. Ah, io sto un po' dietro e prendo la porta. Se posso usare atletica è un 22. Però puoi usare atletica che è un 22. 21, scusa. 21, 21 vittoria, grande baldoria. Ok, dai. No, sono anch'io atletica, perfetto. Atletico. Certo. Riesci. Sono un vecchio atipico. Riesci effettivamente a far sì che questo chiavistello praticamente ceda dal muro. Di conseguenza, con un altro colpo, la porta sarà totalmente aperta. Apriamo la porta con stavolta un calcione stile. D'accordo. Su. Nel frattempo, tu sei di là, ok, vedi, puoi provare effettivamente a scalare e per arrivare su. E c'è tipo una sorta di anime mezzo grossissimi, un capanno, qualcosa dove posso posarmi, o sei direttamente il primo piano? No, però ci sono, cioè la pietra, le pietre sono abbastanza in risalto e ci sono poi dei pioli, puoi provare a scalando a arrivare alla finestra. Acrobatic. Sì, come? Saltando da piolo a piolo. Sì, cioè nel senso, ci sono sì. ogni tanto dei chiodi, però non è che sia sì, fatto apposta per quello che sono piccolo, quindi dai. Sì, Filip? Mentre loro fa sta cosa qua. Sì. E volevo chiederti, quindi l'ase su una, cioè sta cercando di scalare dalla finestra. Allora, tu, tuo... allora, fermo, tu quello che vedi è la cosa seguente, vedi, Katta e giù Arian e Quakard che praticamente fanno fusione e poi provano e poi tirano una spallata, cioè no, aiutarti a tirare una spallata mi dà la spinta, esatto, tipo non so bene come figurarlo, però diciamo che entrambi vanno ma insieme non... a tirare una spallata. Ma non si sfonda le porte a spallate, devi usare il piede. Vabbè, comunque vabbè, loro ci vanno di spalla e vanno tipo insieme, tipo adesso. E poi invece vedi tipo Eric che è andato di, dall'altra parte di là. E tu, a quanto ho capito, rimanevi indietro. No, se avevo più tempo volevo fare un'altra roba, ma... Ah, ok. Penso capito bene, tu stavi indietro a lustrare il tuo arco, tipo così. Sì, no, ma non faccio in tempo. Pensavo di andare, tipo, di chiederti se quella finestra dà sulla strada. Allora, quelle che vedi tu qua ce n'è una allora, che attribuite forse a questa stessa abitazione, perché poi di fianco c'è un'altra, sì, sì, certo. C'è un'altra porta, un'altra finestra, eccetera. Di fianco c'è una finestra, questa porta, che è sbarrata. Sopra vedete un'altra finestra, al piano sopra, c'è che però sembra molto molto piccolo, okay. Tipo quasi okay, massimo. Allora, sto lì dietro con l'acqua. Altrimenti cominceremo. Cioè, la, quella sopra però è senza, non ha imposta. Sì, sì, no, infatti io volevo andare vicino all'altezza di quella sopra e guardare dentro da un'altra parte, però diventa una roba più lunga rispetto a loro che aprono la porta, quindi aspetto. Ok, e tu acrobatics, quindi vai, quindi ti dai un lancio, se sono eccetera. Dei chiavistelli, chiodi, quello che è, mi aggrappo uno, mi do la spinta con i piedi dall'altro per saltare su quello vicino e va, così via. Tira un acrobatics, senza vantaggio. 21. Ok, va bene. Stai salendo su fino alla finestra. Intanto voi siete dentro. La finestra, immagino se me l'hai fatto notare, è o aperta o non è sbarrata. Insomma, il cane entra. Giusto? Allora, tu intanto adesso okay. Sei all'altezza della finestra. Intanto andiamo su di loro, che sono prima. E Segugio, allora, bisogna vedere Katta appena finito di guardare Facebook cosa sì. ci dice. E dentro cioè, è uno stanzino, c'è un tavolo, la stanza è tutta sbarrata effettivamente, cioè le finestre sono sbarrate, e vedete un uomo che tipo è arretrato, quasi fino all'indietro, e fa: ma che cazzo fate? Cosa volete da me? Cosa volete? Chiaramente ha una mano, la mano destra, praticamente c'ha una specie di fasciatura evidentissima sulla mano. E okay, tipo vi cioè è vestito in modo, cioè non è praticamente vestito, cioè è vestito ma tipo con calzoni, maglietta, insomma quella che potrebbe essere l'equivalente di una canottiera, insomma non da andare fuori. Beh, ecco, gli dico: lei è una malattia e io sono la cura. Gli faccio in posizione, io do una martellata in testa qui e gli faccio in posizione delle mani sulla ferita. Cioè, la mano è fasciata. Hai la mano fasciata. Ok. Il mio potere di imposizione delle mani per rimuovergli una sfiga. Sì. Però prima lo devi prendere, penso. In genere uno che riceve una cura non si fa sfuggire, non se la fa sfuggire. Aspetta, però uno però che riceve una cosa del tipo: tu sei la malattia e io sono la cura, tendenzialmente. Tu dici: ah, finalmente è arrivato una persona che mi guarisce. Posso provare a fermare Quake? Allora, direi che tiriamo l'iniziativa. Quake, perché se quella è la prova che magari lui ha piccato l'incendio, anche a me. Il monitor, esatto. Allora, Quake, Arian, Philip, tiratemi l'iniziativa. Dicevo, vuoi lo schermo? Cazzo, non riusciamo. Devo cambiare il titolo anche a questo punto. 13. Oh no. Perché tu prepari troppo? No, io non preparo niente, questa è la cosa bella. Io non ho preparato un cazzo. Com'è che l'hai chiamata il titolo? Il titolo però non è abbastanza generico. Com'è che l'hai chiamata? Il Triffitch. Adesso vediamo, dai, facciamo. Se ci muoviamo, riusciamo forse. Dai. Senti, dicevo, vuoi muovere lo schermo condiviso o no? Come vuoi tu. Se vuoi tirare, se vuoi dirmelo e basta, come vuoi. Quindi scusatemi. Ridatemi tutti i dati. 13. Allora, facciamo qua, guarda veloce. Arian 13. Quakeart 17. Eric. Ah, devo tirare anch'io che non ci sono? Sì. 18. E allora vediamo lì dove? No, aspetta. Ah, ok. 14. Allora, Philip 14. Ah, in tutto questo voi comunque, come sempre, non vi siete chiesti perché non ci sia Sirron, però vabbè. Vabbè, non è così troppo alla festa. Vabbè, era sulla nave, sarà ancora spostato sulla nave. Mentre Kato è tornato. Mentre Quake è tornato. Se ce lo vuoi dire, se lo puoi dire. E come fate a saperlo? Va bene. Ma sai, fondamentalmente lui sparisce spesso, quindi a un certo punto non me ne frega, anche perché tanto io ho sto scrigno, quindi da me deve tornare. Salute, non fa saletta. Va bene. Cosa ti ha attaccato la ragazza ieri sera? In teoria niente, essendo un paladino non posso male. Sei viride. Va bene, il tizio praticamente mentre Kata ha fatto la sua affermazione avanza verso di lui. Praticamente preso da un raptus di totale adrenalina, evita sia Quake sia Arian che ha l'ingresso e comincia a uscire dalla stanza. Cioè sta uscendo. Ora sta a Eric. Sono alla finestra, è aperta, sbarrata, chiusa. La finestra è chiusa. Riesco. Però c'ha un vetro. Lo spacco? Sì, no, ti volevo dire come per non farmi male. Vai. Lo rompo con. Sì. Tiro fuori il pugnale con le solo. Cioè con l'essa, no, con il manico, il pomo, esatto. Così poi dopo puoi aprire, esatto. E ti apri dentro, va bene. Sta a una casa col vetro, no, mentre volevi imporre la tua potenza, questo sì. Ti è sfuggito chiaramente, però bene. È ora davanti a te, dentro di te. Lo rincorri e cosa fai? Prova di lotta? Lo placco, sì. Vai. fermati, non sfuggirai al signore dei mastini. Però 26 26 hai fatto? 19 più 7. D'accordo. No, però in teoria prima dovresti tipo colpirlo e poi fare prova di lotta. No, prova di lotta posta direttamente. Va bene, perfetto. Secca, secca. E lo placchi a terra fuori dal, da questo edificio. Però dall'altra parte cosa c'è? Un'entrata sul retro? No, lui praticamente tu stavi andando, lui era dall'altra parte del tavolo, tu stavi andando verso di lui, lui è andato dall'altra. Ok. È passato di fianco a Giulio che non si aspettava che succedesse tutto questo, mm-hmm. ed è uscito dalla porta. Termini tecnici, non stando ancora a te, lui può fare. No, non ha detto niente. E quindi ora però è sto placcato da cosa. E sta a Philip che è fuori, fra parentesi. Prendo una freccia. Io sono lì vicino, no? Sì, tu vedi questo praticamente che corre fuori e subito dopo Quaker che arriva. Io sono la cura! Non puoi sfuggire alla cura! E placca questo a terra nel fango. Va bene, allora io l'unica cosa che faccio è prendo una freccia come e preparo l'azione puntandola sul tizio. Se si libera, gli sparo. D'accordo. Inche. Sta a Arian. Io mi avvicino a Quake. Gli dico, non curarlo però, aspetta un attimo. Ma come? E tiro fuori il martello e... No, ma perché? Che se si muove lo attacco. Eccola. No, vi prego, non fatelo. Prova contrapposta, Katta. Di che cosa? Forza. 20. Ha fatto un debole tentativo, però è rimasto nelle tue griffie. Va bene, direi che siamo fuori dall'iniziativa e starebbe però Eric comunque, quindi glielo possiamo fare. Faccio un investigation della stanza. Sì. In cui sono entrato. 4. Ma ti sembra semplicemente la stanza di un di qualcuno, cioè di un giaciglio, roba varia, non sai neanche okay. tanto perdere tempo perché qua non sembra esserci nulla di interessante. E allora faccio per scendere. Va bene, gli altri? Siete fuori? No, posso. Finisci pure tu. Io starei fermo e calmo se fossi in te. Siete tutti all'aperto, vi ricordo. Ok, possiamo riportarlo. Ma dentro. Cosa volete da me? Che cosa volete? Chi siete? Cosa volete? Beh, cosa vi ho fatto? Risposte alla domanda. Cure, risposte, ma che cazzo dite? Zitto, faccio io le domande. Che hai preso? Quanta famiglia, quanti famiglie hai? Quake, portalo dentro. Va bene. Che qua lo ritrascino dentro. Diamo troppa attenzione. Chi da solo? Sì. Ok, prova di forza. 16. Tra l'altro si potrebbe fare anche con svantaggio. Comunque ha fatto uno. E vantaggio su un tavolo di costi a fermare. Praticamente dobbiamo... nel dolore si fa trascinare da te dentro casa. Collabori e non le sarà fatto. Ma cosa male. Volete? Oh, cosa volete? Perché? Cosa ha fatto a bravo? Madonna che lagnolo. Mi sono fatto male lavorando. Cosa volete? Tra l'altro fa tutto da solo. Sì. Cioè... Insight di Quake e Arian. 13. 23. Sta mentendo. Scusatamente. È un peccato mentire agli dèi. Philip, tu cosa fai? Sono sempre, cioè, li ho seguiti dentro e poi sto lì pronto, ma non chiedo niente, non faccio niente. D'accordo. Anche perché l'unica cosa che vorrei vedere è controllare l'area, se ci sono trappole, posti dove nascondersi, eccetera. D'accordo, fai un investigation. Investigation, ottimo. Oh, a meno che tu non voglia fare un perception. L'hai fatto smettere di giocare a Mattin. Anzi, questa cosa. 16. Investigation 16? Sì. Sotto il tavolo sembrerebbe esserci una botola. Ah. E Eric è nei dintorni. Devo scendere io. Sono piano di sopra. Ah, mi rivolgo agli altri due e gli faccio un cenno. Ah, sì, a un certo punto sentite dei rumori che provengono dall'alto. Harold, simile Harold qualcosa. E niente, vedete Eric. Cioè. Eric, se intanto vuoi guardare questa botola che è sotto di me. Tempo di scendere la scala al prossimo turno. Harold, senti, sì, certo Harold, Harold, come cazzo ti chiami? Io, perché, chi lo vuole sapere? Che cos'è? No, le domande le faccio io. Harold, qualcosa? Harold, che cos'è? Chi sei? Cosa vuoi? Come ti sei fatto male al braccio? Perché? Come ti sei fatto male? Volete oro? Volete oro? Non oro, okay, non però... oro, non oro. Mi spiace, non ho detto. Non lo so. Come ti sei fatto male al braccio? Non ti ho detto, lavorando. Hai mentito. Io sono un carpentiere, Ma vedi gli arnesi qua, sono un carpentiere. No, hai mentito sul fatto che ti sei fatto male comunità. Lavorando. No, mi sono fatto male al lavoro, puoi chiedermi. Esaminiamo la ferita e gli tolgo le bende. Dolore lancinante, medicina. Me la faccio anch'io. Può darmi una mano. Può aiutarmi a fare medicina. Lui, lo vuoi esaminare. Magari sono più bravo io. Ah, tra l'altro è vero, c'è cioè, tipo dove l'hai messo a sedere? Così. No, sul tavolo. Appena arriva il mio turno, vado. No, va bene, potete fare entrambi, dai. Oppure uno di due aiuta l'altro. Io ho più 4. Tu quanto hai medicina? Più 7. Vai, fallo tutto. Vai, aiuto. Con vantaggio. Sì, ti aiuto. Ti aiuto. 19. Sembra abbastanza chiaro che si tratti di ustioni. Secondo me qui c'è stata una martellata. Tira la martellata. No, no. Andiamo qui, quante famiglie. Qui questa mi pare una ferita da ustione. Cosa? Sì, no, no. Non è ustione. No, questo è... Ok. Stringo la mano. Cosa, scusa? Ah, un urlo lancinante proprio clamoroso. Se c'è qualcuno riparato. Dicevamo non è un'ustione. Vabbè, tanto abbiamo trovato il colpevole. No, no, no. Cosa volete? Chi siete? Cosa volete? Vi darò tutto quello che ho, tutto quello che ho. Perché non lo prendo io? Perché hai piccato un incendio. No. Intanto io apro la moto, la sarà arrivato il mio turno. Continua a fare parecchio male, si stringe. No, non sto intanto apro la botola. Okay. Sono ancora lì così. Sotto. Perché stai urlando? Non capisco. Sotto la botola. La botola la apri. Era chiusa? È chiusa? A chiave? No. Ah, apro. Sì. Ci sono qui sotto molte bottiglie di. Sembrerebbero alcolici. Sono tutti moon maker qua. Provo ad aprirne una e sentirlo. Moonshine maker. Sembra un alcolico molto forte. E questa? Sì, potete avere tutto, avrete tutto, prendete tutto, lasciatevi in pace. No, noi vogliamo sapere come ti sei bruciato l'avambraccio, la mano, quello che cazzo è. È stato un incidente, non volevo. E come mai la tua fiaschetta è finita nel luogo dell'incendio di no, ieri notte? No, non è vero, la mia fiaschetta, non è vero. La fiaschetta, che sì, allora fa? Sì, l'abbiamo usata. No, l'abbiamo usata il tendenzialmente di bruciato. No, dentro. Era nell'incendio però. Quindi. Era chiusa, ora c'è un tappo. Sì, c'è un tappo. Non l'avete aperta. Non l'abbiamo aperta. No. Se apre, si annusa, si sente qualcosa. Odore, immagino. Ah no, è vero, giusto, ottima osservazione. No, la fiaschetta è aperta. Ok. E l'odore tendenzialmente però è quello di bruciato, quello più potente. Mm. Poi sì, probabilmente. Cane? Cosa è una fiaschetta da alcolici, questo è chiaro. Però l'odore, diciamo, principale è l'odore di bruciato. Prendo la fiaschetta, gliela metto tipo qua, La riconosci questa? Cosa dai, uccidetelo, cazzo. Sono stanchiamo a consegnare. Ho capito, volevo. Però basta. Mi hanno costretto, sì. Volevo. Ma provo a fare un persuasion per farlo calmare un attimo. Insight. 8 più 7, 15. Dai, non può uccidere. Allora, mamma mia. E sul fatto che non voleva, probabilmente sta mentendo, però che ci sia qualcun altro in ballo potrebbe essere. Allora, io non ho alcuna intenzione di ucciderti, forse. O di provocarti altro dolore. Ovviamente ti dovremo denunciare alle autorità competenti. No, vi prego, farò qualunque cosa. A meno che tu non ci dici perché hai appiccato l'incendio e i complici. Sì, qualunque cosa, potete avere tutto. Bene, dici nomi e motivazioni. Sì, io... Ci serviranno delle monete per il viaggio? No, io non lo so, cioè il perché non lo so. Tutto lì io. Volevano dare fuoco a quell'edificio. Vediamo, non è che le possiamo spendere. È lo stesso, io lo voglio. Magari l'alcol è più utile per degli scambi. Esatto. Io sono, forse lo saprete, sono nella guardia, nella ronda notturna e conosco un po' tutti lì e quindi niente, cioè, ci hanno dato molti soldi e quindi... Dove sono questi soldi? Non è questo. Oh, vai a cercarli! Sono su, chi ti ha dato le soldi? No, tu non sei convinto che non siete su. Uffa, però me l'ha detto. Oh, stai mentendo! Ma no, non puoi mentire alla cura. Chi ti ha dato dei soldi? Mi ha dato dei soldi, io non so. Non mi hanno dato i soldi. Non lo so come si chiama, essere un tizio strano, forte, mai visto. Non mi hai detto il nome. Mi scrivi. Non era incappucciato e strano, aveva una tunica nera e mai visto, non l'ho visto in faccia. Simboli particolari? Tra la tunica nera. No, era strano, cioè anche io ero molto spaventato, ma inizialmente poi mi ha messo davanti la cosa, il sacco coi soldi e niente, non ho fatto altre domande. E dove l'hai incontrato? Ma ci siamo a una locanda qualche ieri l'altro giorno. No, io dovevo convincere le altre guardie a tenere un spazio, ma non far avvicinare gente, e poi io ho fatto passare questi tre con loro insomma gli ho dato anche una mano, ma non letteralmente. non è quello che faccio normalmente, ecco. Però hai appiccato l'incendio. Sì, non penso ci fosse nessuno, cioè non lo so in realtà. Chi altro ha appiccato l'incendio insieme a te? Allora, sono tre, si chiama, cioè Rufus e i suoi e gli altri. Rufus. Posso rifare un'investigation di sopra? Credo. Vai su e dopo un po' che cerchi trovi un sacchetto. Dentro ci sono 30 monete d'oro. Buono. Rufus e i suoi. Guarda che a sto giro sappiamo che ci sono i soldi. Non li ho trovati. Sì. Come a sto giro. Rufus, credo che lui sia Garrel. Una volta è scomparsa una veste che abbiamo visto, quindi sai. Beh. Guarda, ci sono frecce d'argento, eh. Rufus, no, Garrel. Garrel. È grosso, uno grosso, però. Non siete una guerra cittadina, sì. Eh? No, questi sono dei cacciatori. Rufus Garrel. Sono dei cacciatori. Rufus Garrel e l'altro è. Non me lo ricordo, si chiama, è quello più inquietante. Qualcor credo, qualcosa del genere. E questi, con questi hai appiccato l'incendio. Esatto, ma ora devo andare in bagno. Posso andare in bagno? No. Ah, arrivo. Ora devo andare in bagno. No, te la tieni. Io comunque un insight per vedere se sono nomi inventati lo farei. Credo per vedere se davvero devo andare in bagno. Beh, lì basta seguirlo. Ma... Beh, dai, possiamo sentire anche perché la porta è stata lasciata. La vita in diretta su RGDR. Reality show. Se volete sapere come è andata in un'avventura in bagno. Garren. Rufus, Garren e Qualcor più o meno. Beh, ma noi non basta che andiamo a dire al tizio queste cose. Sì, adesso. Quindi. Ma perché dovremmo dirlo al tizio? Magari hanno altri soldi. Ci ha chiesto di aiutarlo. Mm. Quindi solo questi tre, Rufus, Garren e Qualcor, che sono dei cacciatori. Sì, sono dei cacciatori. E della guardia cittadina se solo invece questo, cioè sei solo tu. Io sì, agli altri, sai, cioè gli ho... Non erano coinvolti, sono sviati. Cioè, gli ho detto sì, cioè che ci guardavo io, che però mi avevano chiesto i vicini, insomma, cioè gli ho. Lui? Sì. Irold. Cioè, non sapevano, insomma, veramente, sì, cosa avremmo fatto. E siete stati tutti assoldati da un tizio incappucciato. Cioè, lui mi ha detto che aveva bisogno del mio aiuto per far arrivare questi qui e per non mi aveva detto bene cosa, e ha detto che però avrei dovuto portarli lì e aiutarli, insomma, e convincere le altre guardie a tenere la gente lontana dal posto, ecco. Ok... E però, questi però, Rufus, Garren e Qualcor dove possiamo trovarli? Ecco, sì, cioè, però allora, io, cioè, sono tizi sì. Molto pericolosi, sono tizi molto pericolosi. Ora, se io vi dico dove potete trovarli... Sì. Nessuno saprà che ne avremmo sentito da te. Ah, ecco, sì. No, però potreste anche lasciarmi stare, cioè, nel senso, alla fine io non ho fatto niente di male. Hai bruciato una casa? Ucciso le persone. Sarebbe stata bruciata comunque, insomma. Però le uccise tu. Sei tu, hai sviato le guardie cittadine che avrebbero potuto impedire l'incendio. Sono morte delle persone. Sì. Deception. Come deception? Deception. Perché? Non sono morte delle persone. Da quello che sai. No? Cioè, non lo sai. Spara, deception. Vabbè, ci sta, spara. 11, 12, no, deception 11. Beh, mi dispiace se sono morte delle persone, però non, cioè, io non so è cosa un dire. Peccato davanti agli dei. Cioè, alla fine, cioè, se muoio anch'io, cioè, che cosa, cioè, cosa sarà, cosa, cioè, non c'è un vantaggio per nessuno. Agli dei. No, ma si può, cioè, possiamo fare altri tipi di offerte, no? Cioè, se hai una se, famiglia. Se, no, e allora sotto le due torniamo alla cosa principale, dove possiamo trovare Rufus. Sì, Garren, però nel senso, cioè, potremmo fare così. Adesso io so che voi, però se io vi dico dove trovarli, mi potete lasciare in pace. Io posso magari cavarmela in qualche modo. Deciderà lui. Grazie. Possiamo fare questa cosa, cioè, nel senso, a questo punto è la guida morale del gruppo. Siete messi bene. E quindi? Bene, tu dirai tutto quello che sai e forse potrò consigliare a Reynar di non trattarti troppo male. Dai, se lo dite a loro è sicuro che mi ammazzano, cioè lo dai scontato. Oh, la, chi? Loro chi? Alla guardia del governatore, insomma. È una pena per appiccare un incendio alla morte. E beh, si è ucciso delle persone. Adesso io non sono un legale, però insomma. Magari non sono proprio morte, morte. Ucciso moralmente. Devi farmi un amico. Persuasion per fargli dire la roba. Bam, 20. 20? più 2 di carisma. Va bene, mi fido di voi. Guarda, allora loro, cioè in teoria la sono qualità nei tiri, cioè, loro in teoria sono dei cacciatori, quindi dovrebbero essere molto lontani da qui in questo periodo, no? Avranno delle case. No, però è chiaramente, insomma, se hanno fatto l'incendio ieri sera non sono lontani da qui. Io penso, sono quasi sicuro che loro si trovino a rifugio. C'è questo rifugio praticamente vicino, c'è una specie di grotta, lì è una specie di rifugio dove loro stanno. La sacchetta... Sono persone molto molto strane, cioè state attenti, insomma. La sacchetta con cui ti hanno pagato, te l'hanno data loro? No, me l'ha data il tizio. Facciamola usare a Baldur. Sì. Ok. Ah, c'è ancora sto cagnaccio, ma quanto dura? Infinito. Infinito. È il mio compagno animale. Finché non muore. È come la cavalcatura del paladino della. È come la cavalcatura del paladino della 3.5. Però è un incantesimo. L'unica differenza. Ma è tipo il famiglio. No, è il destriero. No, sì, è la cavalcatura del è tipo il famiglio, sì. Fai annusare sì. A. Se qualcuno mi dà la borsa con i soldi. Non l'ho trovata. Andiamo su a cercarla meglio allora. La sacchetta è su, io ho preso i soldi. Ah, hai tolto i soldi dalla sacchetta. Certo. No, però aspetta, questo lo dici, no, loro no. No, è ovvio, lo dicevo a te. Ah, non ci sono i soldi, chi avrà mai preso? Io non l'ho trovato la busta. Certo, scusa, gli hai dato. Ma cavolo, allora, non posso farvi deception. Non mi seguite, ve la cercate. Fammi capire, tu mi hai detto mi dai la roba con i soldi e tu gli hai dato la sacchetta senza soldi. No. Io ho detto non l'ho. No. Io ho detto non l'ho trovata. Non l'ho trovata. Noi andiamo su. Troviamo la sacchetta senza soldi. Ah, li hai già spesi tutti, esce la quattro. Su c'è andato solo uno che tra l'altro è tornato su per cercare i soldi. Vabbè. 2 più 2 quanto fa? 33. O ce la risolviamo a dadi o mi seguite la prossima volta, non so cosa dire. No, però sappiamo che li hai presi, cioè no. Beh, ma altro è stato imbarazzante perché stato imbarazzante. Ma scusa, tu gli hai detto sopra o la sacchetta con i soldi, tu sei andato sopra. I soldi a lui? Lui sopra. Però poi dopo lui ti ha detto Eric l'hai trovata, tu hai detto no ma era sopra, lo giuro. Vai, andiamo a cercare la sacchetta su di lui. Vai contro lui. Fate insight su lui. Ma lui dice la verità. Non aspetta. Cioè, vi girate di più di lui o di Harry? 18-22. Sembra molto sincero. Andiamo a cercare su. Vai su a controllare. Che cosa trovo su? Tu cosa hai fatto quindi? Io ho trovato la sacchetta, ho preso i soldi e l'ho lasciata lì. Cioè, nel senso, è un sacchettino. Ho il mio portafoglio. È un sacchettino. Quindi. Sono delle cazzo di monete. È un sacchettino con dei soldi. Tu, cioè, nel senso, l'hai svuotato nelle tue tasche. Sì. E l'hai lasciato lì. Sì. Che cazzo di monete sei? Non credo che nel sacchetto ci fosse il coso del dollaro sopra. No, infatti. No, però la cosa più normale è tipo lo prendo e me lo metto dentro. Cioè, senza stare a togliere le monete. Scusa. Oh, no, se trovi un portafoglio per te, la togli, banconote e te lo incuri. Sì, però se trovi un sacchetto con 30 monete d'oro che comunque occupano anche dello spazio, non è che dici aspetta un attimo, vediamo un po', le metto qua, un po' me le metto. Considerando nel culo. Che ho già le mie monete, penso di avere una sacca unica, poi non so. Come vuoi tu. No, come vuoi, vabbè, se ti dici che hai lasciato la sacchetta, d'accordo. Fatemi un. Un investigation. L'hai rinascosta dopo averla svuotata? L'ho trovata, non so dov'era. Non gliel'ho chiesto, non me l'ha detto, non so. Io la prima volta non l'ho trovato perché ho fatto 4, non so dov'è però. Sì, ma tra l'altro ripeto, se trova il sacchetto non è che c'è il dollarino sopra, cioè credo che. No, beh, lui semplicemente gli ha detto che non ha trovato niente. No, quello che intende lui è se trova un sacchetto vuoto. Non se catturava un sacchetto sopra, non è che dice questo al dollaro sopra. No, ovviamente no. Però magari può venire il dubbio. Comunque non trova niente. Vabbè, facciamo portare dal tizio che se non abbiamo i soldi. Prendo di peso il tizio, lo porto di sopra e gli faccio indicare dove è nascosto. Nel frattempo tu fai qualcosa? No. tira fuori questo sacchettino e dice: no, ma erano qua, ve lo giuro, è stato lui, il nostro amico, se le ha prese. Sì, beh, è abbastanza ovvio, cioè. Questo possiamo credere. Ti credo, amico. Ma a me serve il sacchetto, dammi qua. No, il sacchetto no. Aspetta, cosa devi prendere? Appunto. Dov'è il bel cagnone? Vieni qua. Cagnone. Annusa. Non può salire una scala a pioli. Sì, okay. Ah, a pioli. Pensavo fosse una scala bella anche questa. Vabbè, comunque, Eric, se ti vuoi i soldi, magari la prossima volta... Vieni qua il cagnone! No, no, io no, non li ho no, no, butta giù la scala! Sì, lo fa. Eric, non sei più credibile! La scala è caduta! Non stai credibile! Maledetto e cagnone. Due, anche tre, perché... Chi era su? Chi era su e chi era giù? Io sono giù. Io ho detto non facevo nulla, nel senso come azione, non so, però... Quindi dove eri è giù. Boh. Ok, Eric e Philip sono giù. Il cagnone ha tirato giù la scala. Perché? Sopra ci sono Quakart e l'hai agitato. Quakart e Arian e il tizio. Ragazzi, ci rimettete la scala, per favore? Ragazzi, grazie. Ti rimetto la scala. Dai, gli do una mano. Ah, okay. Questo comunque non vale 30 metri d'oro, Eric, sappi. È una marmotta. No, è finito. Vabbè, comunque butto giù il sacchetto per terra per farlo annusare a Baldo. Adesso scendiamo. Ah, ma il cane l'ha tirato giù ed è rimasto giù. Lui l'ha agitato. Vieni, bello, vieni. Lui ha provato a spingere la scala, però l'ha tirata giù. Va bene, scendiamo. Vabbè, comunque prima dovremmo consegnare bagaglio... No, vi prego, mi avete promesso che non l'avreste fatto. No. Ma in realtà, veramente... No, no, mi avete promesso di no. Ma quindi non andiamo da soli nel rifugio, nella casa. Provo a prenderlo. Vai. Non andiamo da soli nella casa, no, vogliamo avvertire gli altri. Cioè, io gli pianto una freccia nella gamba, se si sposta. Nel ginocchio, possibilmente. Come Skyrim. 9. Esatto. Sguscia via. Come fa a sguscia via che sono tutti lì? Sguscia via da voi, cioè siete distratti e sguscia. Posso tirare? Yes, certo, puoi tirare. Allora, prima ti condivido, dai, facciamo i bravi. Prima che apra la porta, eccetera. Sì. Ma volete quindi... Una o due, guardi. Di cosa? I non frecce, da soli. E qualche no, retina? No, soli. Due? Io ne tiro due. No, lui intanto tirane lo portiamo in prigione. Prima allora ho un meno 5 a colpire perché uso poderoso. Puoi girarne anche una se vuoi, scegli tu. È quello. Allora ne tiro una e vediamo che lui è colpito. Allora ne tiro una, ho meno 5 siamo continuando ad impagare. Ne sono a lui 7 non conviene rivelare tutto anche più allora. 5 sono... Perché ha paura di 5 su 12. Colpito. E 12, allora scusiamo di 8. Sì. Sono 8, 8 e mi dà più, scusami, non gioco, ok, sono 18 credo, devo guardare, il poderoso carta è più 10, no? Mi sembra di sì. Ok, quindi sono 18 più 5, 23. Gli trafiggi la trachea da dietro e... No, no, no, non lo voglio uccidere, lo gambito. Ah, hai tirato sulla precisione? Ma no, posso decidere io se finirlo o no. Con un tiro in corpo a corpo puoi decidere. Anche la freccia, no? Ma se gli hai fatto no. Il suo coso, gli hai prendi l'arteria e lo ammazzi. Ma scusa, non è il colpo di grazia che decidi se farlo, no? Ma quando, non è un colpo quando di grazia, è in corpo questo. A corpo. Ah, sì? Questo non è un colpo di grazia, tu gli stai sparando dietro. No, colpo di grazia, comunque avete capito cosa ho detto. Quando riduci a zero puoi decidere se farlo svenire o ucciderlo, o ma comunque infliggergli una ferita mortale, ma solo quando hai la capacità di modulare il colpo. Cioè, questo è un colpo mirato, però... No, non è un colpo mirato, è un colpo normale in teoria. Ma il meno 5 l'hai preso per cosa? Per il poderoso? Talento... Poderoso, sì. Ah, vabbè, ma quindi non è un colpo mirato? No, non è un colpo mirato. Ah, allora lo segui e basta, muore. È morto morto, cioè nel senso a meno 10 è morto non morto c'è meno 10 Non c'è vero 10, ma comunque giusto. È morto. Va a zero e no, non lo puoi curare. Ma è un NPG, quindi. Quindi. Però aspetta, sì. Quanto hai detto che erano monete d'oro? Beh, non lo sai. 30. L'ha detto lui. Lo vuoi arrestare. Ah, quanto gli ha dato? Ci ha detto che era detto, 30 sì, monete d'oro. Non l'ha detto. Ah, Laz. Avevi trovato anche sparse altre 10 monete d'argento. E altre 2 d'oro, dai. Era ricco. No, 2 d'oro no, dai, 10 d'argento e 20 di rame. No, beh, mi servono diamanti per 300 monete d'oro. Ancora con sta storia, basta. Poi per resuscitare uno sfigato. Mi piace però Philip. Io non faccio niente soddisfatto. No, aiuto! Cosa? Cosa sto succedendo? Ma infatti sta cosa che non puoi gambizzare semplicemente lì. È corpo a corpo, sì. Ma perché dice? Dov'è che lo dice il colpo a corpo? Raga, dovete guardare il colpo. Se, però non me la dovevi dire se volevi fare un colpo mirato. Non esiste il mirato, Bez. Non esiste, no, sì che usere. Ma dai, andiamo a combattere questo tipo che è tardissimo. No, mi sa che ormai. Cambiamo un titolo anche a questo. Mannaggia. Torna l'incendiario. No, vabbè, rifugio, comunque sappiamo cos'è il rifugio. Dov'è? Dove trovarlo? E quanto era il titolo? Adesso te lo dico. Questo è un detto. Cos'è? Il commento cosa. Sotto. Vai, fammi vedere. Dammi. Ma scusa. Allora, Dimens Resistance e bla bla. Cover. Master of Death. Controlling amount. No, niente. Ah sì, mili, no, niente, allora è morto. No, beh. Tipo inchiodato alla porta, così. Sì, c'è solo mili. Ok, purtroppo una freccia tu non puoi modularla per farla solo pianino e stordirlo. No, però, cioè, se non lo becco. Ma quindi non puoi fare più il mirato? In teoria il mirato non esiste, allora. Cioè puoi farlo con svantaggio se tu sei d'accordo. Però cosa intendi per mirato, scusa? Cioè una volta non c'era la cosa che tu potevi puntare un singolo arto, un singola cosa, un sì. Forse c'era una variante. Era una variante. Beh, a 3.5 c'era. Sì, ma era una variante sul manuale che ti dice, ti ha una tabella e tu potevi colpire i singoli punti. Sì, e dava difficoltà a seconda del caso. Esatto, una roba del genere. Però no, non c'è, cioè, vabbè, esiste quella. Non c'è problema, è morto. Vabbè, peggio per lui. No! Oh, ah, questa era la cura. Ora sei curato. Comunque grazie. Bene, faccio sniffare a Baldur la sacca acciaio. Allora, Baldur è troppo felice che gli stai facendo annusare la sacca. E quando la fai usare, proprio comincia a correre verso la porta, poi cambia idea, comincia a correre in cerchio, poi ti guarda e telepaticamente mi dice che comincia a fare tipo e poi dopo comincia, poi si rivolta sulla pancia, comincia tipo a sbavare e muore. Perché? Come, scusa? È morto. Perché non lo volevi far durare per sempre? È morto. Esatto, l'hai detto. In 10 minuti lo posso revocare. Non è un problema. Allora, lui è morto. Faccio un detect magic. Fate un tiro di anche di detect magic, c'è la magia del cane. Non è morto. Non muore, scompare. Cioè, non so. Ah, esatto, muore e scompare. È scomparso. Quindi non c'è più la magia del cane. Non c'è da detectare, a parte le un tiro di medicina, tu. È scomparso. Medicina sulla sacca, se c'è un veleno. Ok. Madonna, raga. Mi devo insegnare tutto. Mentre gioco a Meti. Faccio un tiro. Adesso se ne è veleno. Ma scusa, Laszlo non ha veleni, qualcosa del genere. Sì. Però è usare veleni, non capire. Ah, ok. Beh, oh, sì, dai, sono. Io medicina ho zero, quindi. Però usare veleni non ti fa anche capire bene. No. Boh, questo non lo so. Era qui, era qui. Io tipo il poison sembra... kit, ma è un kit. Non so se so. Ma scusa, l'ha toccata il tizio che l'ha presa. Non può avere. Questa sacca sembra toccata una normalissima sacca. È un veleno per inalazione. Poi l'ho attaccata anch'io. Cioè, non ovviamente, però sarebbe. Cioè, sono stato avvelenato. È un veleno di inalazione, non di contatto. Non so, puoi fare una prova di conoscenze per capire come mai il tuo cane è morto. È la tua magia, capirai qualcosa. Vuoi fare un conoscenza? Tra l'altro, mi sa che a meno che non ci sia. Cioè, non hai mai visto nulla del genere. Bandire creature, direi che lui però c'è celestiale, esatto, che tu non è un cane, quindi vabbè, a meno che non c'è tipo tempo. Bandire non so, faccio una prova di religione. no è un celestiale, per capire cosa può causare quella roba. Un celestiale, fammi un tiro di intelligenza cattiva. Perché no? No. È imbilichissimo proprio. Tira da 13. Non ne hai la più pallida idea. È... cioè, è una roba assolutamente assurda quella che è successa. Cioè, impensabile. Molto bene. Allora mi metto 10 minuti a rimpiangere il mio figlio compagno. Comunque abbiamo un cadavere. No, portiamo di sopra letto e lasciamo lì. Sì, beh, dovremmo dire qualcosa, tipo lui è il piromane e nella colluttazione no, è morto. Basta prendere la freccia di Philip e portarla via e andarsene. È caduto sulla freccia. Basta che Philip prenda la sua prezza e se ne andiamo. Sì, abbiamo tipo fatto un po' di casino. Chiunque ha visto che siamo entrati qua, praticamente. Non avete visto gente per questa strada, per la verità. No, però le case ha detto che non sono troppo lontane. Beh, va bene, però lui avete è fatto molto casino, esatto, plausibilmente. Non però lui è morto. Dovete controllare se ci sono persone. Però lui è morto. Deve essere sentito che abbiamo preso ucciso qualcuno. Dai. Esco. Scusate, c'è qualcuno? No, quante famiglie? No. La prego, so. 12. Ma siete in due. Bene. Mi metto 10 minuti a rimpiangere il mio defunto cane e dopo 10 minuti ricopro. Io nel frattempo vado a bussare a una delle case di vicino. Ok, esatto, nei 10 minuti mentre catta. Vado a bussare. Sì. Dall'altra parte. Una casa. Non ottieni risposta. Busso a quelle più vicine, a tutte quelle più vicine. Tieni risposta. Possibile che la gente quest'ora ha a fare delle foglie. Le donne non sono vicine. Però sessismo. Per quanto riguarda per il medioevo ci sta, mi piace. No, voto 10. Inspiration. Siamo in un mondo medievale. Ma la potete anche usare ogni tanto. Siamo in un mondo medievale. Scusatemi. Per questa ambientazione ci sta. Se fossimo stati sessismo a Bologna in Urbaniros non l'avrei mai detto. Ma siamo nel medioevo. Inaccettabile. Coerente. Per questa ambientazione ci sta. Avrebbe detto Arci. Avrebbe detto Arci perché è una brutta persona. Anche l'ha detto, mi pare, una volta. Anche più di una. Beh. Comunque, evidentemente, le donne, anche loro, hanno dei lavori diversi dal cucinare in questo specifico momento, che comunque è la mattina adesso. Ma abbiamo visto le sera sulla o barca. Forse è il pomeriggio, ma la mattina facciamo. Ok. Comunque, questa, insomma, almeno in questo gruppetto di case qui non sembra esserci nessuno, quindi sembrerebbe che voi l'abbiate fatta, Frank, potenzialmente. Guardate che non vi uccido se mi aprite. A meno che, esatto, qualcuno si sia spaventato e sia scappato via. Vabbè, nessuno risponde. Philip e Eric cosa fanno? Il fatto che Eric evidentemente vi abbia rubato dei soldi a quanto pare non vi interessa. No, no, no, sappiamo. Apparentemente. Abbastanza no, evidentemente. A me non interessa. Grazie, grazie. Sì, tra l'altro neanche a me interessano particolarmente le monete d'oro, quindi potrebbe anche dircelo. Però vi ha anche mentito. Sì. Va bene, quindi cosa fate? Vabbè, diciamo che quello me lo segno e per la prossima volta. Philip e Eric, fate qualcosa? Direi che... Io no, ma direi che tanto... No, infatti... Sì. Io ripropongo solo la storia che dicevo prima, e adesso a maggior ragione, visto che lui è morto, boh, chiudiamola a noi senza andare a avvisare il guardia. Sì, esatto, ditemi cosa fate qua. E torna il cane, intanto un cane nuovo? No, c'è per lui. Perché l'hai fatto? No, no, non ho pensieri così profondi, sono un cane. Osso, palla! No, scusa, è un celestiale? Sì. Allora è anche intelligente. Sì. Intelligenza 6. Ah. Non così intelligente. È più o meno la mia stessa intelligenza. Perché non mi hai dato un osso? Invece di questa cosa che vi ha ucciso. Hai ragione, ho sbagliato, scusa. Non potrei mai perdonarmi. Ma sì, dai, sono un cane, posso fare altro. Bravo, bello. Oh, questo è lo spirito. Bene. E direi di portare il cadavere da Reinar e dirgli cioè, prima di morire è caduto su una freccia per cause misteriose, ci ha spifferato i nomi di Rufus, Garren e Qualcor. Sì, beh, ormai possiamo, magari lo sa dove sono e possiamo andare. Ma ci ha detto al santuario. Ma quindi volete portargli il corpo con chiaramente una ferita su di freccia che l'ha ucciso. No, ditemi voi. Beh, non ho creare antimateria a sto gioco, non posso disintegrare il corpo, ragazzi. Questo poveretto merita comunque una sepoltura dignitosa. Sì, però abbiamo anche da fare, cioè possiamo, tanto lui è morto. Cioè lui vi ha dato i nomi di questi e vi ha detto dove trovarli, sì, potenzialmente. Cosa facciamo? Poi quando torniamo possiamo lasciare un messaggio per Reinar. Abbiamo beccato il colpevole, uno dei colpevoli dell'incendio, stiamo andando a incontrare gli altri e ci dispiace perché è morto. Ci dispiace, ma purtroppo è morto nella colluttazione. Va bene, allora direi di procedere in questo modo. Ripuliamo i segni di colluttazione. Nel senso, ok, dalla conoscenza che avete, ovviamente potete fare quello che vi pare. Però, nel senso, lui vi ha chiesto delle informazioni fondamentalmente. Non vi ha chiesto tipo, per piacere, andate a fare i giustizieri in giro. Noi siamo andati a trovare informazioni. Sì, no, è certo. Però ricordatevi sempre che questo... Cioè lui fondamentalmente non sa chi siete voi, perché siete arrivati adesso con una nave, il Reiner. Questo qua è... Ma il capitano non sa chi siamo noi. Sì, è vero. Però lui è quello della è uno della colonia che comunque era anche nella ronda notturna. Tenete presente questo. Ed era un corrotto, e quindi abbiamo fatto il favore di... D'altra parte, però... Come dimostrarlo? Tipo una mano ustionata, e abbiamo trovato la sua fiaschetta sul luogo del delitto. Però sì, effettivamente la fiaschetta. La fiaschetta avevate detto di averla trovata? No. Ascolte, fate si su tutte le cose per sé. Fate ovviamente come volete, però pensate. Beh, conseguenze. Io ho detto, facciamoci cavoli nostri. Possiamo dargli un funerale dignitoso qua, come facevano gli antichi re. Quindi scendiamo. Oh, sempre esatto, non c'entra nulla. E tu guarda un altro teschio. Sì, le altre case sono abbastanza distanti. Mi sembra molto complicata. No, sono attaccate, la cosa Giulio, è una cazzo di casona con tante porticine. Ok, no, mi sembravano così distanti. Ha ragione, tipo la colonia. Facciamo un funerale come lui avrebbe voluto, tanto fuoco tu. Ah, tra l'altro c'è tutta la riserva di alcolici sotto. Volevo cercare la meraviglia. Esistono degli tipo dei master di sostegno per giocatori, non so. Dipende dai giocatori. Non avevo capito che era tipo un unico casone con tante stanze. Andiamo a dire a Reina che Ci è dispiaciuto un casino, però abbiamo dovuto uccidergli questo colono. Ah, e intanto diamo fuoco al resto della colonia, mi farà piacere. Ma, no! noi abbiamo salvato il mondo, non ti ricordi? Avete ucciso già 12, tipo metà della colonia, l'avete uccisa voi per ora. Noi siamo i buoni! L'abbiamo, che abbiamo ucciso. Io un uovo, è questo. E basta, due. Però sono stati tipo due giorni, ce l'avete fatto. Ma a quanto pare abbiamo fatto un favore. Cioè, perché lo gnomo era uno stronzo. E vabbè, questo non volevamo ucciderlo, è successo, ragazzi. Questo, quell'altro che ci ha dato, fuoco che non uccidesse altre 10 persone. Dell'altro due entrate 15 persone. E quello non lo sanno che sono entrato in quell'intento. 5 famiglie. Questa colonia è un po' depopolata. Quello non lo sanno. Vabbè, cosa lo lasciamo qui, chiudiamo la porta e al massimo torniamo più tardi per gli alcolici. Sì, ma lei che chi se ne frega? Cioè, possono essere un prezioso merce di scambio nella tana dell'orso. No. No, mi ripiglio la mia freccia e buona, andiamo. Dove? Al rifugio. La freccia mi sa che è andata, no? Sì, è andata, ma non posso lasciarla lì. Ah, certo. Sì, in vabbè, effetti non abbiamo fatto in tempo a chiedere dove era sto rifugio esattamente. No, ve l'ha vi ha detto più certo. C'è un rifugio fuori in città, una grotta. Sì, è vero. Non vi ha dato indicazioni troppo precise, però si è parlato di questo posto. Quindi andiamo. Dove? A dormire, sa. Andiamo a cercare a dormire adesso. Però andiamo, sì. Andiamo a cercare quei tizi. Ci ha dato i nomi, cazzo, qualcuno li conoscerà. Hai parlato anche di sto rifugio, magari semplicemente. Sono dei cacciatori, magari portano la cacciagione al macellaio locale e lui saprà dove stanno. Quei Cristo sono tre persone pericolose, si conosceranno. Cioè, da quello che va detto, sono dei cacciatori loro. Ah, possiamo far ricadere la colpa della morte di tizio. Ma basta, è morto, buona, chi se ne frega. Vabbè, ragazzi, quanto siete... Capita, è il ciclo della vita. No, cioè. Sì, no, certo, chiaramente. Mi piace come si fa mille problemi, l'altra volta ho ucciso l'asma, se ne è spartuto. Esatto. L'ho anche resuscitato. Quando l'hai ucciso? No. Con il fulmine. Lui era già, lui era già morto. No, piano. I cioè, cani era l'avevano andato... seccato. Ok, non era morto. E anch'io non l'ho ucciso. L'ha stintato. Gli ho fatto solo il secondo negativo. Ok, poi stava per morire. Però poi è tornato su. Sì, è vero. Beh, se vogliamo l'hanno ucciso i cani. Dai, e io ho colpito un cadavere. Poi scusa, una delle leggi di questa avventura, degli insegnamenti che abbiamo ottenuto da questa avventura, è che un morto un ladro se ne fa un altro. Vero, Gio? È morto il ladro, vive il ladro. quindi vabbè. Vabbè, andiamo a cercare. Philip toglie la freccia dal collo del tizio. E rimettiamo il suo cadavere in casa. Rimettiamo più o meno le cose in ordine. Va bene, fatemi un tiro di. Qualcuno di voi lo fa, aiutato dagli altri, quindi con vantaggio. Di rassettare, no, direi deception. Sì. Vado io? Vai. Io è meglio non lo faccio. Con vantaggio. No. Poi un giorno dovremmo parlare. Anche solo dovremmo fermarci un attimo a parlare del tizio che si incula con questo. No, per il bottino. Sì, vabbè, ma lo sappiamo. Prendiamo misure. 22. Qualsiasi cosa succederà d'ora in poi sarà colpa sua. Nel senso che tutti i bottini che troveremo prossimamente non li spartiamo con lui. Li beh, oh, sì, quello sì, quello assolutamente, scelta vostra. Però se non mi seguite, cioè, non posso farvi io deception, però se non mi seguite... No, ma gli altri, ok, ma in questa occasione però è stata proprio stupida perché... vabbè, però... Rega, non ho trovato niente. Ah, no, ma sono su, cerca meglio, sali su... E poi, no, non ho trovato niente, c'è la borsa vuota, cioè... Beh, non ho detto neanche di aver trovato la borsa, se non li ho trovati, non li ho trovati. E non potete saperlo. Se uno è ritardato, ok. Vabbè, Allora, diciamo che il dubbio ci sta. No, no, qui il dubbio ci sta. No, beh, ben più di un dubbio, perché noi sappiamo che la certezza. Non è un dubbio, l'ho visto qui la certezza palesemente con le frecce. No, se tu, se tu per esempio, no, qui è certezza. Se tu per esempio, se tu per esempio avessi preso tutto il sacchetto, uno non lo trovava. No, ma quello non potevo farlo perché immaginavo che sarebbe, cioè, uno lo andava a cercare innanzitutto, ma comunque che senso ha prendermi 1000 sacchetti? Anche l'altra volta non è che ho preso sacchetti, mettevo tutto nella borsa. Ma boh, Vez, ma anche il sacchetto con le monete lo puoi mettere, cioè non è un... Sì, vabbè, però... Non è che ho detto che hai preso una busta di... No, il punto è che già hai fatto... Maison du Monde già hai fatto la cosa... un divano, cioè... Già hai fatto la cosa losca, ma facendolo capire... Facendolo capire perché mi hai visto la faccia mentre lo dicevo, però effettivamente... No, no, vabbè. Facendolo capire perché qualsiasi persona l'avrebbe fatto, perché tu sali, cioè tu sei salito su, allora, non c'è niente. Dove sono i soldi? Sono su, ma non ce ne ho trovato nulla. No, sono su, sali. No, vabbè, cioè, allora, cioè, nel senso, cioè, oh, allora fino a quel momento era la sua parola contro quella dell'altro, quindi ci stava. Diciamo che poi nel momento in cui lui ha tirato fuori il sacchetto senza nulla, sì, ma... Ah, ma erano qua con la faccia sconvolta, allora tendenzialmente dice aspetta, ladro. No, ma anche prima, guarda che già, anche prima. Già alcune cose degli altri tesori sono scomparse. Perché è andato io su, non ho trovato nulla. L'altro so che non mente. Ci può stare il pensiero, assolutamente. Però. Allora, a livello, non allora, può dimostrarlo. A livello, secondo me, interpretativo è così. Cioè, tu sei convinto che l'altro... Sì, ok. Sì, sì, però sono ragionalmente convinto. Cioè, sì. Se io fossi un poliziotto potrei, no, per dire... è vero, per acquisirlo. Ma non sai quanto ne avevo prima. Però il discorso... Come fai a sapere che ho preso delle monete? Secondo me il discorso... Secondo me poi ci sono 30 monete d'oro. 30 monete d'oro sono che le hai rubate. Se, qui vi do la mia interpretazione. Non sai secondo se me voi, siete, secondo me voi siete certi che lui abbia rubato le monete. No, sì, è per forza. Okay. Detto questo, però, se voi fosse andati su, voi non aveste trovato nulla. No, infatti, se si fosse preso tutto il sacchetto, esatto. Delle due, cioè, a quel punto tu eri sicuro che lui aveva ragione, però al tempo stesso i fatti gli davano torto, quindi anche se ovviamente a livello di gioco hai tirato un 22, puoi attesti dire, però aspetta, ok, io mi ha ingannato, potresti magari delle due dire, cazzo, se mi ha ingannato su questa cosa qua, allora magari mi ha ingannato su altre zona cose. Di verità e scoprirlo. Ah, anche. Cosa che un giorno faremo con te, l'altro. Ah, puoi farlo tranquillamente. Dopo faremo davvero i tiri. Non ci sono tiri con zona di verità. No, non ci sono tiri con zona di verità. Beh, non può fare un tiro salvezza. No. Sì. Può, no, sì, se stai dentro te la vita. No, c'è il tiro salvezza iniziale, ma se lo fallisce non ci sono. Comunque c'è il tiro, insomma. Cioè, dopo non può mentire. Che CD è? 15. Sul? Su volontà, mi sa. Va bene. Se sta... No, ma non mi interessa farlo. So che sei colpevole, cioè, no, sai, hai il sospetto. No, no. In questo caso abbiamo la certezza. Caso, non c'è la certezza. No, in questo certezza. Caso è abbastanza sicuro. Sì. No, come fai a dire che lui non gli ha speso, fatto cosa? È vero. Scusa. Però è molto sospetto che ho tu... capito, è sospetto, ma non è certo. È sospetto che tu dici no, non ho trovato niente, nel senso magari tornavi indietro dicendo ragazzi, ho trovato il suo sacchettino. Cioè, se tu avessi dire fatto qualunque cosa, se sì, tu avessi fatto, se tu fossi andato giù dicendo ragazzi, ho trovato il sacchettino vuoto. No, allora il sospetto è un'altra cosa. Paradossalmente poteva essere. Non lo sai, no, non è certo, se no. Non perché non ti ho visto, non ho le prove. Sì. Però è certo che sei stato tu ed è l'unico che possa averlo fatto. Ed è l'unica spiegazione razionale della cosa. Non hai le prove, non sei certo. Beh, no. In questo caso sei abbastanza chiaro che tu sei colpevole. In questo caso è chiaro che sei colpevole, che hai fatto la cappella. Se avessi preso tutto il sacchetto, no. Poi è ovvio che dovete di quello rotto. Potevo gestire diversamente in diversi modi. Va bene. Che suoni la questura chiedendoci chi avete borseggiato. Esatto. Amici che ci avete sicuramente seguito su Facebook. Non le hai guardato se qualcuno ha scritto, ma dubito di no. Dubito? No, ho capito, però non le hai. Non puoi saperlo. Puoi metterla come vuoi. Allora, amici che ci seguite su Facebook e su tutti i canali possibili e immaginabili, e vi lasciamo con questo quesito. Secondo voi Lars è colpevole oppure no? Cuoricino per sì, faccina cuoricino, esatto, sì. Faccina arrabbiata, no. Aspettiamo il vostro risposto per la prossima puntata. Già fu divertente con le tuniche. Beh, ma quale tu, ragazzi? Anche lì non l'avete visto, esatto. Cioè, vabbè, ma io l'ho visto praticamente. I tizi avevano le tuniche e dopo ho mandato lui a mandare i cadaveri e non le avevano più. Cioè. Sì, è ovvio. Sono scomparse. E quelle cose erano ancora più evidenti. Cercava di nascondermi le frecce, non è che... Appunto, cioè... Io, sono per me. E volevo dire, no, sono le mie, le avevo posate lì. Secondo me era più bella, stata una gran figata con Deception. Allora... E comunque vabbè, allora, avete visto il 14° episodio di Colony, che a questo punto continueremo a chiamare Il Rifugio. Vabbè, nella prossima puntata spero che riusciremo finalmente a concludere questo arco narrativo. E vi ricordiamo che ci potete continuare a seguire sulla pagina Facebook di Tycoons & Dragons e ovviamente sul blog gdr.wordpress.com, che prima o poi riuscirò a come si dice? Aggiornare, bravo, grazie Giulio. E grazie per averci seguito questa domenica sera. Se ci avete seguito, se no, seguiteci più avanti su, sempre su Facebook. E vi diamo appuntamento a questo punto nelle prossime settimane, non questa che viene, di cui di fatto abbiamo anticipato la sessione, ma quella dopo in qualche modo ci organizzeremo. Tanto più che se dobbiamo non organizzarci perché non c'è Sceo, è superfluo. Comunque. Vi ringraziamo per averci seguito di nuovo. Vi auguriamo una buona notte. Sto facendo una cosa fighissima. Smettimi. No, Sceo. Ah, è vero. Sta facendo una cosa fighissima. Salutiamo Stefano Gamberoni per non aver partecipato, ma va bene. Gli vogliamo bene. D'altra parte, io gli avevo chiesto un paio di sessioni per farlo salire. Ma giustamente. Vuole giocare a un livello più difficile. Altro, lasciamo quindi ai nostri... La seconda domanda. Facebook telespettatori, un ultimo quesito. Secondo voi chi salirà prima, il gruppo o Sceo? E con questo quesito possiamo chiudere la diretta e quindi darvi una buona notte ai prossimi appuntamenti con Tycoons & Dragons. Ho fatto questa mossa, però al tempo stesso faccio fatica a chiudere. Lascio l'ultima parola a Giulio. L'asa colpevole. Beh, decisamente Barbabietto. No, l'asa colpevole. Ciao a tutti. Anzi, Harry. Quanto XP hai fatto? Beh, ho sti cosine di provatelo. Cocco è essiccato. Amici del podcast. Non ho riguardato gli amici di Facebook, ma ovviamente ci potete seguire frutta sul podcast secca. Di RPG. Ci sta il... seguire, andare insieme, assolutamente, ma dovete farlo. Amici del podcast, se ritenete che l'AS sia colpevole, scaricate il podcast due volte. Se invece ritenete che non sia colpevole, solo per fare visualizzazioni, vedi. Ciao a tutti.